vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Ma ce vado io, in vita vostra, andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Buonasera a te e tutti i radioascoltatori. La mio orenghe, la mio orenghe, la mio orenghe, la mio orenghe. Ottima trasmissione. Lui tiene sulla trasmissione, da brava persona. Ha preso quel taglio lì e va avanti così. Però non offende mai nessuno. Cruciani non offende mai nessuno. Parenzo, buonasera. Cruciani, scusami. Faccio la prostituta, caro. Con le tue trasmissioni ci stai rovinando il lavoro a tutte. Buonasera. Dica. Io vorrei parlare di puttane. A Roma e a Milano le ragazze di 14 e 15 anni fanno quasi tutte le puttane! Con gente di 60 anni! Grazie, lei è un mito, l'amo. Arrivederla. Allora, è evidente che il tecnico di questa radio mi vuole fare cacciare, ovviamente, no? C'è un complotto contro di me, non ho deciso nulla di questa introduzione al programma, nulla, vi assicuro, nulla, però me ne assumo la responsabilità. Anche perché, devo dirti la verità, caro David, ieri sera la cosa che più mi ha interessato del programma di martedì, che ho visto così di sfuggita, era un meraviglioso servizio sulla Germania. Non sapevo che esistesse un nuovo servizio nei bordelli tedeschi. Che c'è, Squinzi all'ascolto a quest'ora, secondo te? 18.36? No, ancora in ufficio. Possiamo parlare tranquillamente, dici, no? Possiamo parlare tra di noi. Dalle 19.40, Luigi. No, 20. Lavora fino a tardi. Tardissimo. Sì. Non bisogna dire che esce prima dall'ufficio, signor Squinzi, presidente di Confindustria. Bisogna dire che esce tardissimo dall'ufficio. Sì, però ogni tanto, anche in ufficio, per orgoglio, magari ha delle persone che sta ricevendo, dice, oh, guarda la mia radio che va benissimo, che è fantastico. Sentiamo, così, in ufficio, magari una delegazione di cinesi, che ne so, no? Capi di Stato, capi di governo. Non capiscono l'italiano, però. No, ecco, capi di Stato, capi di governo, con orgoglio, dice, guarda, senti la mia radio. Io vorrei parlare di puttane. Tutto gira intorno al sesso, caro Parenzo. Tutto gira intorno al sesso, anche la Confindustria. Sir, are you gonna be my girl? Questo credo io. Sì, tutto gira intorno al sesso, diciamo la verità. Tutto gira intorno al sesso. Molte delle cose umane, dei rapporti umani, dei rapporti politici, girano intorno al sesso, su questo non c'è dubbio. Però ti dicevo, una cosa che mi ha colpito ieri durante il programma di martedì è un servizio sulla Germania. Perché non pensavo si fosse arrivati a tanto. E devo dire che i tedeschi, come tu ci insegni, sono sempre più avanti di noi, no? Com'è che dice Grillo? Cioè, ma lo fanno, evidente, chiaro, no? Allora, senti cosa si sono inventati in un bordello tedesco. Lo so che ci sono tante altre notizie. C'è Mattarella, ecco, che appunto ha firmato l'Italicum. Civati che se n'è andato dal Partito Democratico. Grecia con Varoufakis. Vabbè, quello sempre. Però ogni tu giorno. Odi Varoufakis, secondo no, me. No, a me non me ne frega niente di Varoufakis, no, assolutamente. Tu temi che governo... la Varoufakis, la gente. Sì, esatto. Canale, il governo che dice che non rimborserà tutti i pensionati che sono stati favoriti in teoria da una sentenza della Corte Costituzionale. La questione del Rolex, fondamentale, perché l'amministratore delegato della Rolex contro il governo, tutte cose fondamentali. Però parliamo un po' di prostitute, così proprio brevemente qui, sì, in apertura. Vabbè. E cioè, in Germania arrivano a questo. Senti, è meravigliosa questa proposta, che fa poco, costa pure poco, senti. Andiamo a organizzare un addio al celibato in un posto che applica la formula All You Can Fuck, tutto quello che puoi scopare. Incluso scopare tutto costa 80 euro a persona. 80 euro a persona. Sesso orale senza preservativo è incluso, leccare è incluso e la normale scopata. Vabbè, lasciamo per dopo, dai. Sir Floris qui, Lasciamo. Floris, no, poi dicono di noi. Sir Floris, ragazzi, qui. signor Giovanni mi incazzo, salto sulla Floris, sedia però grande Floris, no ma grandissimo, grandissimo, bellissimo, però signor amici miei Floris. Di martedì Floris un servizio così esplicito, adesso ho tolto un po', molto non, bene, non molto c'è bene. Mai stato, non c'è mai stato. Ma guardate che lo fanno anche in Germania, sì, vabbè, ok, infatti in Germania hanno inventato questa formula favolosa. È pazzesca questa formula. Io conoscevo All You Can Eat. Qualcuno mi ha suggerito prima che in realtà in alcuni locali dove praticano l'All You Can Eat devi pagare di più se non mangi tutto. Cioè se non mangi tutto. In esatto. Questo caso però non è applicabile, credo. Esatto. Non è applicabile. No. Cioè come si applica lo you can fuck, lo you can eat, cioè lo you can eat? Non lo so. Forse se resti un po' così barzotto dopo la terza quarta devi pagare tu il doppio, che ne vai so. Vai nel dettaglio proprio, diciamo. Ma sì, vabbè, comunque dopo, rimandiamo a dopo, dai. Meglio. 800 24 00 24, incazzatevi un po' con questi signori della scuola, con questi ragazzi della scuola, se volete, che non sanno nulla del motivo per cui stanno scioperando. Nulla, nulla, niente. Perché sciopera? Perché Renzi, come tutti sappiamo, vuole privatizzare tutte le scuole e vuole toglierci 2 mesi di vacanza. Non vuole privatizzare tutto, dove l'ha letto? L'ho sentito in giro e questo è contro i nostri diritti. Privatizzare tutte le scuole, toglierci le vacanze. Ma non dai, è vero. Ragazzi, su, ma di che stiamo parlando? Vabbè, hanno fatto una giornata di vacanze. Dai, dai, su, senti. Chi è il ministro della scuola? Non lo so, perché non sono di questa scuola. No, vabbè, ma il ministro non è che c'è un ministro per scuola. Il ministro italiano dell'istruzione, chi è? Renzi. Il ministro dell'istruzione Renzi, altre perle. Molto senti. Bello questo servizio della signora Fagnani. Dai, su, molto bello, sapevo, però perché non vuoi dire chi ma firma i pezzi? Ma perché non puoi essere così lecchino. Sei veramente un lecchino. Ma dai, giusto, cioè, sei autoreferenziale. Ma la gente deve sapere. La gente non gliene frega nulla. Tutti arrabbi tutte le volte che non ci citano, ma che non dicono la zanzara. Marito, senti, non mi fare perdere tempo, dai, per favore. Vabbè, è un giorno di meno di scuola. Alla fine comunque è una scuola nazionale tutti gli studenti, alla fine noi manifestiamo perché c'è, cioè, il governo va male e quindi questo, alla fine c'è, cioè, una cosa tutti quanti. È una cosa un po' di gruppo alla fine. Che pena ragazzi, che pena. Vabbè, la questione della Rolex, allora, o come la volete chiamare, tutto è iniziato perché Alfano e Renzi hanno pronunciato queste parole nei giorni del casino di Milano. Noi abbiamo avuto dei farabutti col cappuccio e poi dei figli di papà col Rolex e qualcuno che è andato lì come se fosse una scampagnata, non capendo che la democrazia è un'altra cosa. Grazie alle donne e gli uomini del PD di Milano che, mentre quelli con Rolex andavano a distruggere le vetrine, loro si sono messi a cercare di pulire Milano e di dire che 4 teppistelli figli di papà non la vinceranno. Allora, bisogna dire una cosa: come era una puttanata identificare quelli là che hanno distrutto Milano con i ragazzini con Rolex, ed era una puttanata pazzesca perché non c'entra assolutamente nulla, semplicemente perché c'era un tizio che si è fatto inquadrare con un orologio che sembrava forse da lontano un Rolex. Io dico, ma come può venire in mente all'amministratore delegato della Rolex Italia, no? Come ti può venire in mente? Cioè, tu non sei l'amministratore delegato di Cazza Bubù, cioè sei l'amministratore delegato di Rolex Italia. La Rolex, voi capite che cos'è Rolex, no? È il mio no, perché mi fanno schifo. Però il sogno di tantissimi. Addirittura è schifo. Ma i Rolex non mi piacciono, che ti devo fare? Mi fanno schifo, non mi piacciono i Rolex, che devo fare? Cioè, la maggior parte non mi piace, però ne può piacere uno. Comunque, non mi comprerei mai un Rolex. Molto bene. Ma chi se ne frega, non andrà in, come dire, non chiuderà la Rolex per quello che sto dicendo. Come ti può venire? Tu sei l'amministratore delegato della Rolex. Come ti può venire in mente di prendere carta e penna, pagare? Ma questo per la Rolex non è un problema, per comprare una pagina dei giornali. In questa pagina La Rolex cosa dice in sostanza? Cosa dice questo signore che si chiama Giampaolo Marini? Dice che gli dà fastidio l'accostamento tra la Rolex e i distruttori di vetrine. Ma chi l'ha fatto l'accostamento? Ma chi se ne frega? Chi ha accostato l'azienda Rolex a chi distrugge Milano? Ma bisogna essere pazzi per fare un accostamento di questo tipo. Qualcuno ha scritto, qualcuno ha detto male, sbagliando, al governo in particolare, che quelli là erano con i Rolex, ma perché è un modo di dire, no? I ragazzini viziati, figli di papà con Rolex in mano. Ma dai, su ragazzi, ma di che stiamo parlando? Questo qua ha preso carta e penna, indignato contro il governo, bisogna che il governo rettifichi. La Rolex è presente nel nostro paese da oltre 80 anni. Rolex Italia è da sempre un cittadino esemplare di Milano. Ossequioso della legalità e molto spesso. Ma me fai di quello che ha detto? È molto spesso chiamato a collaborare con le forze dell'ordine in occasione di indagini relative al nostro settore. Punto e profondo rincrescimento per l'associazione insita nelle vostre parole tra la condizione di distruttore di vetrine e il fatto di portare un orologio Rolex al polso. Dai su ragazzi, ma veramente state scherzando? Ma che bisogno c'era di fare questa roba qui? Ha difeso il marchio. Ma non c'è bisogno di fare nemmeno pubblicità alla Rolex. Ma che ha difeso il marchio? Ma nessuno ha accostato i Rolex ai distruttori di vetrine, ai Black Block. Ma solo lui l'ha fatto, nessuno l'ha fatto. Poi c'è un'altra cosa, abbiamo un ospite, dopo il traffico lo chiamiamo in causa. Lupi è tornato sulla vicenda del Rolex al figlio per dire, no perché il Rolex, no, con Rolex ci si può giocare molto, per dire che in realtà a tutti i figli viene regalato un Rolex. No amico mio, non è così, nel tuo mondo forse è così. Ma credo che ci siano tanti figli che hanno un Rolex, io l'ho regalato anche all'altro mio figlio, la Lara. Il Rolex è un bello orologio. Traffico, veo chi là. La Zanzara. Lo so che non ve ne può fregare di meno, ma il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato la nuova legge elettorale, che dunque è ufficialmente in vigore per quello che riguarda la Camera, non prima del 2016 e tutti questi pasticci qua. Abbiamo con noi il cittadino Michele Giarrusso, 5 Stelle. Buonasera. Ci ho azzeccato stavolta, eh? Finalmente avete imparato la lezione. Bene. La rieducazione serve, eh? Caro senatore Renzo, dica la verità. Lei ha un Rolex. Dica la verità. Sì, ha un Rolex. E lo regalo anche ai figli. Ma come no, tangentisti, dica la verità, ma io vi querelo in Black Block. Block dell'etere. Io non ho mai fonda vetrine con il suo programma La Zanzara. Ma mi hanno detto che hai passato un giorno insieme a Giarrusso. Un giorno con Giarrusso, sono stato a casa di Giarrusso. Non bisognava dirlo, No, si può dire. Sono stiamo stati dici, insieme passare per una giornata simile. Passare una giornata insieme parece l'ha fatto perché c'era il Corriere purtroppo. Per il Corriere della Sera l'abbiamo fatto insieme e l'ho fatto addirittura salire su un'auto blu. No, eppure daltonico, oltre ad essere Black Block. La macchina era nera come il suo spirito Black Block. Però l'ho fatto salire su un'auto nera, l'ho fatto salire con l'autista, con l'NCC. Giarrusso, non ho capito. No, Rolex, no, di la verità, no, perché sennò perché mi stanno già arrivando. Tu hai detto giuro sui miei figli veramente che non ho, no, non ho alcun il problema, ti vergogni di avere un Rolex? Ma non no, perché non me lo so, non me l'hanno mai. Ma non ce l'ho, perché non ce l'ho. Se volete sapere, ma guarda che siete due teste di cazzo, con tutto il rispetto, e veramente vi fate andare i matti. La gente ci crede davvero. Ma qual è il problema di avere un Rolex? Se vuoi sapere, ma perché non ce l'ho purtroppo? Ho uno Swatch, ecco, purtroppo. Ma è certo, ho uno Swatch e un bellissimo Longines che mi ha regalato mio nonno quando ho fatto il bar mitzvah a 13 anni. No, vabbè, hai detto che ho un Rolex, non ho. Rolex. Io non ho detto che è un Rolex. Prima io ma Giarrusso, a lei fanno schifo i Rolex? Purtroppo non c'è. Le fanno schifo i Rolex? Ma a me fanno schifo i politici che li fanno regalare dai tangentari ai propri figli per il compleanno. Cioè per cui, Lupi di fatti fa un po' orrore da questo punto di vista. Un orrore supremo. Orrore supremo addirittura. Però non è tangentista ancora, cioè nel senso non è stato nemmeno indagato, credo. Non è certificato tale, aspettiamo Contrepidazione, dice lei, no? Aspettiamo contrepidazione. Comunque, con certezza. Le intercettazioni già che lo mandano nell'Olimpo dell'orrore, che risalgono a 2 anni fa, quando 2 tangentisti intercettati si stupivano, io mi ricordo, del tenore di vita di Lupi, dello yacht di 30 metri che sfoggiava in Sardegna. Cioè, secondo lei è un corrotto? E delle non è serate nel ristorante della costa più esclusiva della Sardegna, dove dici, ma come ci può andare con 9.000 euro al mese? Voi pensate, secondo lei, con 9.000 euro al mese, secondo loro non poteva andare ogni sera a cena in quel ristorante. Quindi siamo nell'Olimpo dell'orrore. Però secondo lei è un corrotto, sicuro? Ma questo non credo. Lo dite voi, spero che abbiate una buona assicurazione. No, io non ho detto nulla, è una domanda, io non ho detto nulla. Scusi, signor Giannuzzi, io voglio capire, Mattarella. Io ho sentito che lei ha detto questa cosa. Ma assolutamente, no. Te l'ho sentito anch'io, l'ho sentito anch'io. Ma non è vero. Ma assolutamente, io voglio dire una cosa, Mattarella che firma la legge, secondo lei è complice di qualche delitto? Collaborazionista? Ma è una pagina triste la nostra storia. No, ma Mattarella, voglio capire, che sia una pagina triste, lo è so. È una pagina molto triste, perché una persona di qualità senza dubbio elevate non ha avuto la spina dorsale di marcare le palle, diciamo, non ha avuto le palle. Rimarcare col suo ruolo il rispetto della Costituzione. Cioè, e secondo lei la con Costituzione è stata violentata da quella legge. E dunque anche Mattarella si è reso complice di questa violenza? Certamente, perché lui là ha una funzione, non è un passacarte. Non è un passacarte. Facciamo un bel impeachment. Facciamo un impeachment. Un atto dovuto. Facciamo un impeachment pure per lui. Ma è un atto. No, non scherziamo con queste cose. Atto che presiede a un controllo di un arbitro terzo del rispetto della Costituzione. Vabbè, però quella norma è un obbrobrio. Però scusi, Gerussa, so, qui non stiamo facendo un comizio adesso, stiamo parlando di Mattarella. Ma come, non siamo comparendo? Stiamo facendo siamo di Mattarella. Se lei mi dice, se lei mi dice che Mattarella con questa firma ha messo la sua, come dire, il suo timbro finale sulla violazione della Costituzione, beh, qui bisogna agire in maniera rapida contro questo Mattarella, o no? Sì. Pronto? Guardi, è un grande dispiacere, non c'è da... Poi è siciliano come lei, è siciliano. Mattarella, purtroppo ormai è evidente che sono una contraddizione in termini. Cioè? In che senso? Ma... eh? Un presidente si avvia a una presidenza oscura. Oscura. Una presidenza... presidenza oscura? Non di garanzia del nostro paese, rinnegando addirittura le stesse cose che aveva sottoscritto da giudice della Corte Costituzionale. Vedi quanto male per fa cui la è supino politica. Supino a Renzi, lei dice. Uno schiavetto di Renzi. No, questo lo dice col guinzaglio, che ne so, uno di quelli col... lei. Sicuramente è una persona che non ha difeso la nostra Carta Costituzionale. Ma questo è grave, però se lei lo dice, questo resterà scritto. Quello che di cui non si rendono pagherà conto, anche lui, le dice Ominicchi. È che la loro traccia nella nostra storia resterà segnata per sempre in questo modo. Perché questa legge è una legge infame. Ma comunque... che segna una svolta terribile nella nostra storia. Scusi, Giarrusso, a parte che la gente non si rende conto che la legge è infame, magari se ne renderà conto presto. Quando il 15-20% dei voti avranno il 55% dei seggi, si renderanno conto benissimo di che cosa vorrà dire. Cioè, ma secondo lei siamo al fascismo? Dalle mafie, dai poteri. Ma che c'entrano le mafie? Da tutti quelli che riusciranno a mettere in campo ogni sorta di imbroglio. Però... per accimolare qualche voto. Scusi, Giarrusso, siamo al fascismo. Mettere sotto la maggioranza degli italiani. Se ne renderanno conto, come se ne fossero secondo del Porcellum. Gli insegnanti. Ma lasci perdere gli insegnanti adesso. No, ma no, siamo al fascismo o no? Siamo al fascismo. Le europee hanno votato per il PD. Si sono fatti infiammare. Sì, però un attimo, Giarrusso, euro che non hanno dato nemmeno a tutti. Scusi, siamo al fascismo o no? Si sono resi conto che hanno fatto carachiri praticamente. Scusi, Giarrusso, siamo al fascismo allora, secondo lei? Sicuramente siamo un passo avanti verso il fascismo. Un passo avanti verso un nuovo tipo di fascismo. Ogni età c'ha il fascismo. Ma che no, ma dai, sul fascismo. La faccia di Renzi. Il fascismo. No, non ci crede neanche lei, dai. Non è mia la frase. E di chi è la frase? Il proprio fascismo. Dove l'ha copiata? E se lei va su Google, come fanno i ragazzi, la trova rapidamente. Pasolini? Sciascia? Vabbè, il nuovo fascismo. Ma insomma, lei si rende conto? Vi rendete conto di che quello che Cozzalone, state che dicendo? Delle roba. Cose incredibili. Tra l'altro, voi potete vincere con questa appunto legge. Mi ascolti, il problema per il Movimento 5 Stelle non è vincere. E perché non volete vincere voi? Perché non, non possiamo vincere contro la Costituzione e contro i diritti dei cittadini. Ma quale noi Costituzione? Noi siamo stati mandati là per difendere i cittadini. Ma lei sta dicendo che con questa legge si arriva a un nuovo fascismo. Ma qual è sto fascismo? Ma fosse vero, io spiego in una maniera semplice, semplice che anche Parenzo è in grado di capire. Guardi, 30 secondi però, 30 secondi. Questo non facciamo credo. Il test. Ma scusi, però un attimo solo, Giarrusso. Dice che lo capisce è fatta. Scusi, Mussolini era meglio, secondo lei era più democratico di Renzi, Mussolini? Ma allo Stato fra la legge Acerbo e quella Mussolini, voglio dire, Mussolini di Renzi, non è che ci abbiamo tanta tanta differenza. Guarda, le spiego semplicemente. No, però dobbiamo chiudere. Mussolini era meglio. Dobbiamo dire una cosa importante. Era meglio di Renzi. Il 20% dei voti. Ma lo sappiamo questo. Un solo partito. No, non lo sa la gente. Lo sa la gente, lo sa. 53%. Mussolini era più democratico o no? Modificare la Costituzione. Ma lo sappiamo. Modificare, influire. Vabbè, la lascio parlare. Ci sentiamo dopo. 19. Ci sentiamo dopo. Lasciativo Parenzo. E alla defecazio non ci penso. BMW Freeride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta La Zanzara. Tu sei uno strumento nelle mani del demonio. Cruciani, ti auguro veramente che tu ti possa convertire, perché mi fai tanta pena per la rabbia, per quest'astio. Siete due delinquenti, due grossi delinquenti. Allora, secondo Crozza, nemmeno Ceausescu ha fatto una legge come l'Italicum. Ovviamente la mette un po' sull'ironia, però secondo me un po' ci crede Crozza a questa cosa. Adesso arriva. Andiamo a Torino, dai Jerry. Poi lo mandiamo, poi mandiamo Crozza. Jerry, vai. Era carissimo. Dimmi. Io voglio dire una cosa molto semplice. Io adesso vi chiedo, e con me molti altri, perché la Resistenza ha fatto tante vittime. Quando ci siamo ripresi in casa un bel fascistone. E quale sarebbe il fascistone? Ha solamente gli arti. Quale sarebbe il fascistone? Renzi. Ma dai, su Jerry, ma di sinistra, solamente gli arti. Ma può darsi che non sia di sinistra, eccetera. Ma che c'entra il fascismo? Dai, su, non diciamo stronzate. Comanda solo lui. Lui ci sta solamente mettendo dalla parte dei poteri forti. E sta facendo un governo che nessuno sarà più in grado di toglierlo di là. Cioè, non è fascismo questo, che cos'è? Ma quale fascismo? Poi, dai, su, ma che c'entra il fascismo? Un'altra roba, dai. Ma è possibile che c'è sempre paura in Italia di qualcuno che dice, magari decide male? Secondo me spesso decide male, altre volte questo, sì. Diciamo certo. Sempre. Vabbè, ma quello è un altro discorso. Ha pensato aiutare assicurazioni e banche, che cosa vogliamo fare di più? Ma no, ma adesso al di là, ma quello, lei critica Renzi e va benissimo, questo cosa c'entra col fascismo? Niente. Non spiega? Cosa c'entra? E il fascismo che cos'è? Ma non ho capito, che c'entra? Un uomo solo al comando. Ma allora è quello, no? Ma che vuol dire? Dai, e allora su. Anche Obama, anche Hollande, anche Camerun. Ma sono dei democratici, sono dei democratici. E invece Renzi no. Va bene Jerry, fammi sentire Giorgio da Milano, dai Giorgio. Ok, grazie. Ciao Giorgio. Caro Cruciani, è un pezzo che volevo dirti che sei un emerito testa di cazzo. E come mai? Un emerito testa di cazzo idiota. Sì, bene. Ingrato. Ottimo. Perché quando tu critichi il presidente della Rolex. Sì. Dicendo che ha fatto male o ha fatto bene. Perché non me lo posso permettere, scusa. Perché non posso? No, No, ah, ti non dico posso. Che tu non puoi criticare una persona che spende 30-40 mila euro sul tuo giornale per pubblicare una pagina del cazzo che dice le cose che dice. E chi se ne frega? Ha perfettamente ragione. Ma chi tu se ne frega? Sei un ingrato testa di cazzo. Scusa, ma lei è un dipendente. Presidente, sì. Il presidente o il direttore del 24 Ore ti manderei fuori a calci nel culo. Tu, a te, scusami, Giorgio, tu sei un dipendente tu della Rolex. Tu sei un leccaculo di merda. Ma che c'entra leccaculo? È proprio il contrario in questo caso, in teoria, no? Tu hai soltanto mente sesso perché c'è un cazzo di 14 centimetri, mi ha detto qualcuno che ha avuto un rapporto. 14 è poco. Scusa, sta entrando un ospite neanche in studio, però 14 è zero. No, però sei Giorgio, scusami, vabbè, però, vabbè, Giorgio, smettila di dire solo stupidaggini. Allora, no, sei una testa vabbè. Di cazzo. Giorgio, cazzo. Giorgio, pronto? Giorgio, pronto? Sto parlando con Giorgio oppure con un avatar? Giorgio? Sì. Allora, dimmi. Torniamo, lasciamo perdere le questioni di sesso che non, tu non te ne occupi, sei un... No, me ne occupo sì. Va bene, ma non capisco perché che c'entra la Rolex. Tu. Va bene, ma che c'entra la Rolex? Che c'entra la... Del sesso, va bene, capito? Benissimo, che c'entra... Va bene, d'accordo. Senti, Giorgio, vabbè, lasciamolo delirare, tanto mettetevi insieme, questa... andate a uomini insieme, sì. Che vi fa sì, bene. Ma guarda, ci stiamo... ci stiamo pensando, guarda, Giorgio. Ecco, non tentate, lo fate già sicuramente. Fra poco... dei bei travestiti che hanno dei begli uccelli da infilarvi. Beh, se fra poco... Se fra... Intanto un ospite che se fra poco arriva un signore in camice bianco... Se fra poco arriva un camice bianco per te. Ecco, se arriva un camice bianco non ti preoccupare. Che hanno chiuso il sedativo, il sedativo, il sedativo, mi raccomando, il sedativo sarà forte, sarà una dose molto forte in questo caso, una dose molto molto forte. Allora, prendiamo solo la prima parte del tuo discorso, Giorgio, ed è molto semplice la cosa. Io ho criticato, io non so quanto abbia speso la Rolex per pubblicare sui giornali, forse anche il Sole 24, c'è anche sul Sole 24 Ore, sì, questa pagina, probabilmente sì, sì, sì. Non so quanto abbia speso, 30, 40, 20, non me ne frega assolutamente nulla, zero. Mi posso permettere, ma come molti si possono permettere, per fortuna in un paese libero, di criticare in maniera molto pacata, tra l'altro, l'amministratore delegato della Rolex, che secondo me ha commesso un errore di comunicazione clamoroso, perché è evidente che ha commesso... Secondo me ha fatto bene, invece, ha difeso un marchio, il suo marchio. Ma non c'è bisogno di difendere nessun marchio. Ma lui, però scusami, tu puoi essere libero di attaccarlo, ma lui da manager io non lo sto nemmeno attaccando. Ma che ma no, qual era l'accostamento improprio? Spiegami. No, qual lui era dice ha fatto uno scivolone il signor Renzi e il signor Alfano, il governo, ad accostare l'immagine, a prendere ad esempio la Rolex con quello sfasciatore di vetrine. Tutto qua ha detto lui nel suo articolato. Scusami, ma però chi poi ha dopo collegato la Rolex come azienda allo sfasciatore di vetrine? Però, spiegami. L'ospite che ho qui peraltro. Sì, va bene, dopo. No, ha un Rolex. Adesso non vorrei. Ma certo, poi... ha un Rolex. Ma è molta gente in Italia ha un Rolex. Ma qual è il problema? No, ma nessuno ha mai detto che è un problema avere un Rolex. Nessuno ha mai accostato la Rolex agli sfasciatori di vetrine. È stato Alfano e Renzi insieme, hanno detto una stupidaggine secondo me, perché secondo loro quei teppisti di Milano erano dei ragazzi viziati, figli di papà. Questa era l'idea di Renzi, cioè sì, Rolex allora, come allora si doveva arrabbiare, di papà, allora si doveva arrabbiare per questo forse. Sì, certo, mi sono regalato il Rolex. Poi dice no, i Rolex avrebbe dovuto dire, se avesse avuto un buon ufficio di comunicazione, secondo me i Rolex non è solo dei figli di papà, i Rolex è di tutti, e lì sarebbe stato eccezionale. Non è solo dei figli di papà i Rolex se lo possono permettere tutti, e lo regalano tutti. Cioè, questo è il punto fondamentale. Crozza Ceausescu, vai. Renzi ha fatto approvare ieri una legge elettorale che prevede di dare tutto il potere al premier. Nemmeno Ceausescu se l'era mai sentita di fare una legge così. No, compagni, fermiamoci, questo è troppo anche per dittatura di comunismo. Teniamo almeno preferenze nella lista. But now I might be mistaken. Allora, Enrico da Modena, vai, Enrico. Buonasera, Gianni. Io volevo solo fare un appunto a quel fenomeno che ha chiamato prima sul Giorgio da Milano, ma anche all'amministratore delegato della Rolex, che io sono un agente di commercio, no? Sì. A me hanno insegnato da che mondo è mondo che quando si parla di un marchio si fa pubblicità. Quindi è stato un autogol tremendo, comprando. A parte che Rolex non ha bisogno di pubblicità, anche quella che... Appunto, appunto, ma è andato secondo me questa pagina comprata per... Ma poi scusate, il Rolex in realtà spesso è stato in mezzo a un sacco di scandali, a un sacco di vicende strane. Per esempio io mi ricordo dei Rolex regalati dall'ex presidente della Roma Franco Sensi agli arbitri, mi ricordo successe un casino. Insomma, il Rolex è anche degli arricchiti o anche dei corrotti, perché è un simbolo di potere, ma va benissimo. Ma è quello che si regala alla prima comunione o al bar mitzvah o non so che cosa, anche, cioè un oggetto bello che viene regalato in a un me certo non piace, per la laurea, ma, appunto, ma a te non piace perché tu sei così, ma non importa. Simbolo di potere, dicendo non ma appartiene, potere. Siccome quei ragazzi erano figli di papà, vai a rinnegare quel target di gente a cui l'hai venduto, insomma. Va bene, grazie. Quindi, Maria da Genova. Maria Genova. Buonasera Cruciani. Senta, io in fondo mi associo a quello che ha detto il signor precedente, ma in più aggiungo che è stato lei che ha fatto una gran pubblicità, per cui la Rolex dovrebbe mandarle un Daytona. Per carità di Dio, per carità, mamma mia, per carità. Io rimando indietro tutto quel poco che mi arriva, adesso faccio per iperbole, ma le dico, sa perché dico questo? Perché lei l'ha ripetuto tante di quelle volte. Vabbè, non c'è bisogno, non è che Rolex ha bisogno di pubblicità. Ma non ha bisogno di televisione, la pubblicità vuol dire che ha bisogno. Ma non ha bisogno di fare pubblicità, dai. E allora perché fa la pubblicità in televisione? Non ha bisogno di fare pubblicità, nel senso, non ha bisogno di ulteriore pubblicità oltre a quella che fa, e oltre a un brand affermato, questo ma fa, ma scherza. Ma no, poi, dai, su. Detto da persone come lei, che siete persone, insomma, siete dei numeri uno, e per cui a un certo momento le persone sentono, ascoltano. No, a me fa impazzire questa frase. Profondo rincrescimento e disappunto per l'associazione insita nelle vostre parole fra la condizione, cioè le parole del Premier e le parole del Ministro degli Interni, fra la condizione di distruttori di vetrine e il fatto di portare un orologio Rolex al polso. Ma non c'entra assolutamente nulla. Ma si può anche sorridere di queste battute. Infatti ho sorriso infatti, assolutamente. Ecco, fanno solo sorridere, però fondamentalmente qualcuno che ha cominciato questa storia, più l'amministratore delegato, insomma, hanno fatto una cosa esplosiva che per 3 anni non ho più bisogno di fare nessuna pubblicità. Ma figuriamoci. Grazie. Giuseppe, provincia di Bari. Vai, Giuseppe. Ah, carissimo, finalmente, sono mesi che tento. Io sono il maresciallo dei carabinieri. Sì, oddio, che dobbiamo fare? Dobbiamo aver paura noi? No, per che carità, c'è? Ma tu che ci sono le manette in studio? Ci vuoi portare le manette in studio? Per carità. No. Siccome tu hai approvato sempre quello che ho detto io in precedenza. Ma tu sei in servizio o no? Sei il maresciallo che viene in servizio? Sono in pensione. Ah, sei in pensione. Vabbè, sempre carabiniere sei però. Sì, sfasciare arconi che non hanno le reti sulle coste libiche con i caschi dell'ONU. Sì, è vero, dicevi questo, me lo ricordo, sì. Poi, bravo. Che poi questa cosa, noi abbiamo un esercito che è allenato per fare la guerra, giusto? Ma che c'entra questo adesso? Andiamo... Aspetta, arriviamo subito. A parte che tu fai il tagliando all'Italia, quindi questa è una cosa bella che ti voglio dire. Tu tutte le sere fai il tagliando. No, vabbè, Giuseppe, però andiamo al sodo, dai, non mi fare questi complimenti che mi danno fastidio, dai. No, non è un complimento. Vabbè, Giuseppe, ex carabiniere, appuntato, che ci vuoi di oggi? Aspetta. L'esercito deve essere allenato alla guerriglia urbana. Con 10.000... no, caro mio, sì, caro. Con 10.000 uomini, a voglia, black block, li prendiamo a fucellate, non ci sono problemi. E poi io sono quello del partito delle 10 ore di spiegamento al giorno. Vabbè, Giuseppe, non ho capito niente. Adesso ci fermiamo un attimo perché c'è la pubblicità. Non mi hai spiegato quello che vuoi dire, perché vuoi sproloquiare come al solito. Passi dal, per carità, ti voglio bene, ex appuntato dei carabinieri, persona tutta ad un pezzo. Per primo, così in teoria, scusa. Per primo hai proposto l'affondamento dei barconi in Libia. Te voglio bene, però, amico mio, stringi pubblicità. Pubblicità. La Zanzara. No, ti dico che tu non puoi criticare una persona che spende 30-40 mila euro sul tuo giornale per pubblicare una pagina del cazzo che dice le cose che dice e ha perfettamente ragione. Tu sei un ingrato testa di cazzo. Allora, Sai, Parenzo, cosa mi fa venire in mente la parola Rolex? La parola pensavo Rom. No, capivo. Rolex, oggi va di moda Rolex, almeno sì, per una puntata, Rolex e non sì, Rom. Sì. Mi fa pensare a quella vicenda di gossip che coinvolge indirettamente Matteo Salvini, ma che in realtà coinvolge la sua nuova fidanzata, quello che sembra nuova fidanzata, cioè la signora Isoardi. Ah, sì. Isoardi. Attento a quello che dici, perché Salvini ha querelato già chi, attento. Sì, perché attento, chi ha scritto che sarebbe incinta la Isoardi. Attento. Ha querelato chi? No, non sto dicendo niente. Sto parlando del famoso orologio Rolex. So che sì, la cosa non appassiona magari il grandissimo pubblico. Forse sì, noi non lo sappiamo, forse appassiona. La signora Isoardi avrebbe un orologio Rolex, un orologio Rolex del suo precedente fidanzato, il signor Canio Mazzarro. Canio Mazzarro, già non so se marito o fidanzato della Santanchè, insomma, grandi intrecci di potere. Vabbè, di cui parleremo tra pochissimo. Grandi intrecci di potere, tra l'altro, con un ospite. Però, che però, è già qui seduto che ascolta. No, ma Canio Mazzarro è un finanziere, sì, un imprenditore, molto simpatico. Molto. Io vorrei chiamarlo perché oggi, appena ho sentito la parola Rolex, mi sono ricordato di questa storia. Cioè, il Rolex che Elisa Isoardi, fidanzata di Salvini, avrebbe preso a Canio Mazzarro senza restituirglielo, dicendo che era un regalo. Lui invece dice di no. Ma insomma, questo è quello che hanno riportato i giornali, Rolex, Canio Mazzarro, ex fidanzato di Isoardi, Isoardi, nuova fidanzata di Salvini. Questo è il grande intreccio, le grandi inchieste della Zanzara. Questo Rolex, di chi è? Il Rolex di Canio Mazzarro. Meglio chiamiamo, di Report, siamo. Chiamiamo meglio Mazzarro, di Report, meglio di Report, bravo. Chiamiamo Mazzarro. Signor Mazzarro? Sì? Buonasera, mi scusi, sono Giuseppe Cruciani della Radio 24, la disturbo? Cosa mi deve chiedere, scusi? No, siccome, mi scusi se ho fatto questa piccola, questa piccola associazione tra la vicenda della Rolex che è uscita oggi e la vecchia vicenda... No, Doris, ho fatto questa associazione. Lei è molto simpatico. Ho fatto questa associazione mentale. Siamo tutti dei Black Bloc, questa è la verità. In che sei? Cioè, che vuol dire siamo tutti? Le donne sono peggio dei Black Bloc, le donne. No, però ho saputo una cosa, me la può confermare e basta? Cioè, ho saputo che in realtà questo famoso Rolex, adesso non mi interessa entrare nel merito, in realtà è di suo figlio, è questo che la fa incazzare. Ma no, è vero, ma guarda, è tutta una trovata pubblicitaria, purtroppo. Non è pubblicitaria, è tutta una trovata giornalistica del giornale. Chi non c'è niente di vero in tutto quello che c'è. Cioè, non è vero che lei è arrabbiato, non vuole indietro sto Rolex. Ma no, ma ci mancherebbe, nel senso che voglio dire, i Rolex vanno e vengono, no? Come le donne. Come le donne? Dunque se lo può tenere il Rolex. Gli ho detto, vanno e vengono i Rolex. Però le donne, solo Parenzo, lei converrà con me che le donne sono più pericolose dei Black Bloc alle volte, le donne. Quello senz'altro, vabbè, ecco. Stava a San Dir, quello è proprio è la legge del proprio naturale, quindi... Quindi dobbiamo altro che Cenerini, bisogna mettersi le mutande di latta. È il numero uno. Io ho sempre saputo che Canio Mazzarro è il numero uno in assoluto. Gesui Mazzarro. Gesui Mazzarro pure io. Sulle donne Gesui Mazzarro. Gesui Mazzarro. Buona serata, grazie. Ma allora non lo vuole più indietro, sicuro, No, sicuro. Ma l'ho risposto. Tutto in. Non è un'invenzione, anche lei ci ha giocato. Su, dai. No, io non ho detto nulla, mai nulla. Ma è di suo figlio o no, sto Rolex? Di chi è? Ormai della Isoardi, possiamo dire ormai. È dei Black Bloc. è quello là, ce l'hanno i Black Bloc. Meglio un Rolex oggi che un Isoardi domani, questo si può dire sicuro. Meglio un Rolex oggi che un Isoardi. No, perché lo dite voi, non l'ho detto io. Va bene, grazie, arrivederci. Grande abbraccio, amico mio. Buona serata. Ciao. Baby, I feel good from the moment I arrive. Feel good from E abbiamo con noi in studio a Roma un uomo una volta si diceva molto potente, oggi non lo so. Oggi si è dedicato soprattutto alla scrittura da un po' di tempo a questa parte. Già prima faceva romanzi. Sì, già prima giornalista, romanzi, eccetera. Però oggi in particolare si è dedicato alla scrittura. Si chiama Luigi Bisignani. Buonasera. Benvenuto. Buonasera. Come stai? Come stai? Grande tifoso della Lazio, innanzitutto questo bisogna dirlo, perché tifoso della Lazio. Bisogna sempre sottolinearlo come prima cosa di Bisignani, prima cosa assolutamente. E domenica abbiamo avuto un grande dispiacere. No, guarda, non mi parlare di questa cosa, non mi parlare. Fammi una, tu che fai sempre le previsioni su dove andranno i manager pubblici, dove andranno gli uomini di potere. Fammi una previsione su come finirà, ti prego, dammi una classifica finale. La tua idea qual è? Come finirà la corsa alla Champions League, caro Luigi? Beh, Juve, logicamente. Vabbè, Juve, Lazio. Sì. No, vabbè. Roma e Napoli. Beh, è un desiderata più che un pronostico. Vabbè, ma noi laziali viviamo di sogni, perciò almeno fino a quando non si infrangono continuiamo a credere. Senti, ma tu lo titolo lo conosci o no bene? Beh, certo che lo conosco. Ma secondo te è vera questa storia che da piccolo era tifoso della Roma, secondo te? Ma no, questo lo dicono tutti, beh, devo dire che però ha messo una passione in questa Lazio e noi laziali tu lo difendi, bisogna sempre certo che lo difendi, lo difendi, lo difendi, stiamo lo difendi. Per essere cancellati, però amo molto anche Cragnotti che ci ha fatto sognare e adesso il 14 c'è una grande festa per ricordare il secondo scudetto della Lazio, capisci Valenzo? Capisci? Ieri comunque, visto che parliamo di calcio, ho fatto un viaggio in treno da Milano rientrando e in un vagone c'era Ferrero. Beh, voi non sapete la Ervi Peretta. E chi ti ha detto? Beh, no, praticamente c'era era intasato il suo posto perché tutti si volevano far fare i selfie con lui. Beh, praticamente è stato sempre in piedi e lui si mette in posa quando fa i selfie. Sì. È proprio come lo imita Crozza, con la faccia un po' sfondata. Ma aperta. Si può dire in questo momento che Vi Peretta è quasi più famoso di Renzi, diciamo, dal punto di vista più popolare di Renzi. Cioè... Ma secondo me, sicuramente più amato. Più amato di Renzi in questo momento. Senti una cosa, allora, innanzitutto bisogna dire Bisignani. Che ha scritto il libro, lo dico io, I potenti al tempo di Renzi, Bisignani, Madron, gli amici di, perché dice che è una marchetta, no, il libro non è mai una marchetta, mai. I potenti al tempo di Renzi, Bisignani, Madron, chiare lettere da Bergoglio a Mattarella. No, è bello che Bisignani, che io conosco, si definisce, non ama essere definito faccendiere, ma si definisce un triangolatore, poi ci spiega cosa significa. Beh, però no, è sottile la cosa. Sì, sì, però ti voglio subito chiedere una cosa. Posso dirti che poi ha delle carte qui che fotograferemo, che ci ha portato in esclusiva. Che carte? Le carte? No, delle carte. È che la radio non è la TV, ma tra poco le twitto con il suo permesso. Ti dico solo la data di questo scoop che ci regalerà: 10 febbraio 2006. Una lettera autografa di Renzi. Tra poco diremo a chi. Ce l'abbiamo qui una in mano. Una lettera autografa di Renzi. Amico mio, abbiamo le carte. Abbiamo le carte. Carte amico mio. Vabbè, in questa diatriba voglio subito chiedere a Luigi. In questa abbiamo diatriba. Abbiamo le carte, amico mio. Le carte, abbiamo vabbè, le carte. Adesso stai un attimo. Carta canta. In questa grande diatriba di potere, caro Luigi. Tra De Bortoli, che interessa effettivamente a poche persone, ma te in particolare, ma non solo, De Bortoli, Renzi, tu da che parte c'è? Chi ha ragione tra De Bortoli e Renzi? Cioè, De Bortoli dice che lui alla fine è un arrogante di talento, dice che Mattarella non doveva firmare la legge, in realtà oggi l'ha firmata, insomma ha poi parlato una volta addirittura di odore di massoneria sul patto del Nazareno, e Renzi invece sostanzialmente che cos'è che gli rimprovera? Di appartenere al vecchio establishment, ecco, questa è in sostanza. Tu con chi stai? E beh, però, visto che l'ha accusato di stare col vecchio establishment, il vecchio establishment gli ha fatto un bel tranello a Renzi, perché ha messo lì proprio il delfino, che peraltro io avevo previsto un anno e mezzo fa scrivendo un altro libro. Vabbè, ma Luciano poi indovina tutto. Dai, che Luciano Fontana era direttore, sarebbe stato il direttore del Corriere. Carta canta pure questo. L'ha scritto nel libro, il direttore. Nel direttore era Guerra, il mio vice direttore, che assomigliava molto a Fontana, e poi l'ho anche ridetto e era stato ritwittato più volte. Per cui insomma, Fontana è stato un bello scherzo per Renzi. Perché? Beh, perché lui certamente non voleva la continuità con la gestione di De Bortoli. E lì ci sono due vecchietti che sono abbastanza, uno più vecchietto devo dire che è Giovanni Bazzoli, l'altro molto vispo che è Sergio Mattarella, che forse hanno gradito la continuità con De Bortoli. Addirittura, ma il Presidente della Repubblica si è messo in mezzo a questa roba? Beh, certo. La partita del Corriere decisa dal Quirinale. Oggi è un giorno particolare per me perché è il secondo anniversario della scomparsa di Andreotti. C'è stata una messa, c'è stata una messa pochi minuti fa, dalla quale io rientro adesso. Beh, il giorno prima di lasciare il Corriere della Sera, De Bortoli conquistava a pranzo con Napolitano e con Mattarella. E beh, lì qualcosa deve essere successo. Hai cioè, capito? Tu dici che alla fine Mattarella, che ha firmato l'Italicum, però sul Corriere della Sera ha giocato una sua partita. Beh, so che a voi non vi piace, ma io sono convinto che moriremo tutti democristiani. Addirittura. Beh, certo. Ma che vuol dire moriremo tutti? Moriremo cioè tutti Renzi democristiano. Renzi democristiano giovane, diciamo. Però a te piace moltissimo, Renzi. A te piace moltissimo Renzi, eh? Beh, non, ti piace non è, l'arroganza non, del potere ti piace? No, no, no, noi non siamo mai per l'arroganza del potere. Noi veri andreottiani siamo per il colloquio, siamo per il dialogo. Tanto siamo... voi deciderete voi comunque, no? Beh, certo, però, certo. Però non in modo arrogante. Non mettendo la fiducia come ha fatto nell'Italicum, perché se lui avesse fatto un dibattito parlamentare non si sarebbe preso tanti insulti, avrebbe portato a casa sicuramente l'Italicum. Perché poi questi parlamentari... Cioè è stato un po' un bullo, dici assolutamente Renzi. Un bullo, un presidente, un po' bullo. Un bulletto. Un bulletto. Senti una cosa, vabbè, però non mi hai detto qualcosa su De Bortoli, Renzi con chi è? Chi ha ragione in questa diatriba, Renzi? Beh, De Bortoli secondo me ha spinto un po' sull'acceleratore. Su quella roba della massoneria era veramente una fregnaccia. A chi si riferiva secondo te? Si riferiva a questo forse variegato mondo toscano, ma certamente non a Renzi, che è un boy scout casa e chiesa. Lui che non c'entra niente con la massoneria. Ma non c'entra proprio con la massoneria. E la definizione di arrogante e di talento? Beh, arrogante anche Caudiglio. Beh, questo Caudiglio pure, sì, Caudiglio. Sì, Caudiglio forte, secondo me è più forte. Però ecco, se uno dice Caudiglio, poi a un certo punto uno è legittimato quasi a uccidere il Caudiglio, no? Io o no? E per cui ma in teoria, se uno pensa che Renzi ci uccide a tutti noi, stai tranquillo. Hai così perfici da aver paura di Renzi dal punto di vista del potere. Cioè, basta vedere la storia di tutti quelli che hanno cercato di prendere un po' spazio, lui li ha fatti fuori tutti. È l'erede di Andreotti naturale? No, Andreotti faceva campare tutti, assolutamente faceva campare tutti. Senti, ma è il nuovo Berlusconi allora, Renzi, si può dire? Beh, il Berlusconi punto 2, e poi con una differenza Berlusconi 2.0, è l'evoluzione di Berlusconi, e con una grande differenza, che come dice Renzi, e come diciamo, scriviamo noi nel libro con Madron, sulla figa e sui soldi, come dice, sui soldi a me non mi faranno mai cadere. Parola di Matteo. Ah, questa Renzi è la grande differenza. Questa è la grande differenza. Certo. Per cui su questo lui sarà. Cioè, tu dici sulla figa sta attentissimo. Astentissimo. Per cui tutte le storie che circolano sulla Boschi, tutte anche false. Parliamo delle donne di Renzi. No, ma scusa, delle aspetta, donne di Andreotti, sulle storie, le storie che circolano sulla Boschi sono tutte false, Luigi? Beh, per quanto riguarda Renzi, assolutamente sì. Poi lei c'ha dei gusti. Io l'ho naturalmente molto studiata. Sì. In che senso studiata la Boschi? Studiata nel senso che ho parlato con. Non l'ho mai vista. Che ho parlato con decine di persone, con Madonna, per fare questo libro. E beh, abbiamo scoperto che lei è una donna fascinosissima. Basta vedere Vespa come è inginocchiato davanti a lei quando le intervista. Innamorano tutti di lei. Sì. Verdini innamorato di lei, Quagliariello innamorato follemente di lei. E lei in realtà ha avuto due grandi amori. Uno è Bonifazi, come si sa, che cioè, il tesoriere. No, ma non dica così. Bonifazi ha avuto una storia. Ma si sa, si sa perché nel mio libro. Ah, lei lo dice nel libro, non è che si sa. E non è smentita la querela. Bonifazi, che poi veniva chiamato nel circolo Bonitaxi, perché era quello che portava in giro. Questo lo dice sempre Renzi, lei, questo lo dico sempre. No, perché sa com'è. Scusi, sa com'è. Vabbè, Bonifazi poi ha una funzione importantissima nel piccolo clan. E come no? I soldi. Perché a parte i soldi non è quello, perché li fa ridere. Perché racconta a Renzi la sera quando sono stravaccati sul letto. È una persona molto simpatica. Simpaticissima. Cioè il barzellettiere di Renzi, che cos'è? È il barzellettiere, è quello che raccoglie tutti i gossip in Parlamento e la sera glieli vede. Perché questi sono ragazzi di 40 anni che si divertono, sono proprio veramente un gruppetto di amici miei. La Boschi, dicevamo, oltre a Bonifazi? Io l'ho, come dire, in qualche modo capito che lei ha avuto una grande storia con un pallanuotista. Con un pallanuotista dell'Est, una storia. Dell'Est addirittura. Sì. Ma quando questo? Naturalmente molto prima. Ma è giovanissima. Ecco perché è una ragazza. Ma Renzi, che tipo di fascinazione ha nei confronti della Boschi? Cioè, le piace come. Cioè... Beh, no, le piace molto. Poi, le piace come donna, come donna le piace. Sì, però va detto che a Renzi piace sicuramente la Boschi, ma la Boschi piace a chiunque la incontra. Vabbè, questo a me non piace, per esempio. Più della Madia, ad esempio. Beh, sì, quella è più muscia, mi pare, no? Perché tra le donne di Renzi non ci mette anche la Madia. Beh, tra le donne di Renzi, quelle che lei chiama le donne di Renzi in modo un po' evocativo, diciamo, del clan, la cosa più divertente delle donne di Renzi è lo scontro che c'è stato tra la Bonafè e la Boschi, quando Renzi ancora la Bonafè, era eurodeputato del Partito Democratico, questo ci arrivo, quando ancora giravano l'Italia in camper e stavano lì nel camper, e beh, lì si contendevano si contendevano Renzi, e insomma alla fine la Bonafè è finita a Strasburgo, ecco, ma perché è finita? La Boschi è finita. Cioè, non fa più parte del clan la signora Bonafè, è in rottura con Renzi, ma come mai? Beh no, io credo che sia in rottura con la Boschi. Credo che se qualcuno la chiamasse e gli chiedesse un giudizio con la Boschi, non risponde, o sarebbe impietoso. Ma comunque sarebbe divertente. Cioè, come la, come la considera una cosa? La considera una di basso profilo, diciamo la verità. Beh, insomma, una che gli ha fatto veramente le scarpe, ecco. Però ecco, io voglio fare il cappotto a tutti. Voglio chiedere a Luigi Bisignani una cosa. Renzi è uno che si circonda, uomini o donne che siano, di camerieri? Tutto il potere si circonda camerieri, cameriere o no? Perché la Boschi non aveva servitori Andreotti. No, assolutamente no. Ma lascia perdere Andreotti, che è un'altra epoca. No, no, io sai, quando sento la parola Andreotti ti emozioni, Luigi, mi emoziono sempre, guarda. Ti emozioni. Che cosa c'è in comune? Anche oggi ho scritto sul Tempo un'intervista immaginaria. Ho letto benissimo l'intervista immaginata da Andreotti, grandissimo. Molto apprezzata dai figli di Andreotti. Allora, ma come mi dicono? Io voglio dire una cosa, ma si circonda di camerieri o no? Perché dicono questa cosa qua di Renzi, che ama circondarsi di persone di basso profilo, comunque che non lo possono curare. O di yes men. No, direi che lì il dialogo non esiste, insomma, è veramente una piccola dittatura. Di un gruppetto piccolo di 4-5 persone, non sono più di 4-5. Cioè 4-5 persone guidano l'Italia, comandano l'Italia in questo momento. Sì, direi 4-5. Questo è interessante. 4-5 persone, sì, vogliamo elencare quelli che comandano l'Italia. Renzi ovviamente è il capo assoluto. Poi? Renzi è il capo assoluto. Poi sicuramente c'è quello che chiamiamo Prezzemolino, che è Lotti, che è il sottosegretario della presidenza, che è molto preciso, molto puntuale, dà risposte a tutte. Poi c'è sicuramente la signora Boschi, che ha un ruolo importantissimo. Del Rio? Poi ci abbiamo invece la ex vigilista, tanto presidente, la Manzione, che è assolutamente però una che sta prendendo piede, una che va in tuta a Palazzo Chigi. E poi siamo in quattro. E poi c'è appunto Bonifazi, questo è il cerchio romano che ha preso un potere pazzesco, che si contrappone al cerchio fiorentino, come noi scriviamo nel nostro libro, nel Giglio Magico, dove ci sono alcune stelle importanti, che sono quella dell'avvocato Bianchi, che è più sconosciuto, ma è quello che ha costruito tutte, diciamo, perché le fondazioni. Si contrappone perché all'inizio questo gruppetto, dove c'è l'avvocato Bianchi appunto, e Marco Carrai, erano quelli che hanno fatto crescere molto Renzi. Adesso però il potere vero ce l'hanno a Roma, per e cui quelli sono incazzati perché si sentono sminuiti. Il rischio è questo. Per cui Nardella ormai non conta più niente, una volta era il braccio Nardella è stato messo da parte, sta facendo benissimo Firenze. La figura migliore di tutto questo gruppo di cerchi è la signora Agnese, che è l'unica che ancora oggi lo tiene con l'unica con le palle, diciamo. Diciamo che l'unica con le palle, la professoressa di provincia, che non ha scioperato, che non fa montare la testa ai figli e che sgrida regolarmente Renzi quando prende elicotteri come di Stato, aerei. È lei che lo sgrida? È lei che lo sgrida. Il famoso aereo di Courmayeur, ad esempio, anche quest'ultimo che ha fatto a Bolzano. Sì, anche quest'ultimo. Lei su questa cosa qua è rigidissima. Ma è gelosa di Renzi o no? Ma io credo che è geloso come le Della Boschi, noi. Per esempio, tra la Boschi e lei, che rapporto c'è tra la Boschi e la signora Agnese? Beh, secondo me c'è un rapporto talmente forte tra Renzi e la Boschi? Tra Renzi e l'Agnese, che lei a questo punto anche sopporta tutta questa attenzione mediatica che c'è sulla Boschi. Certo, quando vanno poi al Maggio Fiorentino, magari non è proprio che si salutano. Non c'è un gran rapporto, diciamo, tra le due. Però devo dire che lei è la più quadrata di tutto il gruppo. Fermi tutti. Siamo, se non l'avete capito, con Luigi Bisignani e le sue storie di poteri, potenti al tempo di Renzi. Le carte tra poco dopo le 20, però prima voglio dire una cosa su Berlusconi, perché il fatto stesso che non abbiamo mai parlato di Berlusconi in 10 minuti, un quarto d'ora di trasmissione, questo significa che Berlusconi ormai è finito, io lo dico da tempo, ormai Allora voglio chiedere a Bisignani una cosa, subito, prima dell'interruzione. Caro Luigi, ma Berlusconi venderà il Milan o no? Dimmelo, tu ci azzecchi quasi sempre, venderà il Milan o no? Al comunista. protagonista lì. Beh, io credo veramente di sì. Adesso c'è stato un piccolo intoppo, perché poi questo Mr. B o Mr. Lee, o come diamo Mr. Bean, forse. Mr. Bean, no, allora? B, il cinese. No, viene, il thailandese. Il thailandese. Sì. Arriva Berlusconi con tutto un giro un po' strano, una specie di corte di miracoli. E secondo me Silvio, che poi alla fine è furbo, insomma, sì, sembra un po' in disgrazia, ma è furbo, ha capito che insomma forse c'è un'aria di sola, perché anche i thailandesi a volte sono... Ah, tu dici c'è un'aria. Allora ha capito, allora sta rialzando il prezzo. In questo lui è stato... Però lo vuole, ma perché vuole vendere il Milan secondo te? Per bisogno di liquidità, perché si è rotto le scatole? Alla fine lo venderà secondo te comunque? Alla fine secondo me lo venderà, sì. E perché? Ma perché non gli serve cassa, più, non gli serve più. Non gli serve più per quello che gli era servito, appunto, diventare ancora più popolare. Va bene, fermi tutti, pubblicità, poi torniamo con il rush finale con Luigi Bisignani. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, pubblicità. La Zanzara. È tutto finito, è tutto degradato, è tutto, tutto. Scontri in televisione, il... rappresentante economico, non so come definirlo, comunque uno degli uomini di Renzi che si occupano di economia, Taddei contro la Meloni. Senti. Che lei è un'illiterata, sì, sì, è un'analfabeta economica, sì, e non sa cosa fare. Io sono un analfabeta e voi siete servi, no, di gente che si fa i propri interessi sulla pelle degli italiani. Io non sono un'analfabeta, lei è un'analfabeta economica, lei non sa cosa fare. Beta economica, se avete sentito, dice Taddei, la Meloni dice servi. Oh, abbiamo scoperto perché Landini urla tanto nelle manifestazioni, e non solo nelle manifestazioni, anche in televisione. Le grandi scoperte, Landini. Dicono che urlo, è vero. Ho chiesto, era una battuta, ho scoperto una cosa, perché ho chiesto a mia madre, no? E ho scoperto che... Anche sua madre ha detto che lei urla. Esatto, ma c'è un antefatto. Ho scoperto che quando sono nato avevo il cordone ombelicale attorno al collo. Quindi e che stavo per strozzare. E che mi hanno battuto talmente tanto per farmi parlare. Allora, e lo dico, io mi scuso, allora, perché tutte le volte che vado a una trasmissione... nella mia testa devo star tranquillo, non ci riesco. C'è un'origine, non è naturale, con qualcuno. Io non ho capito questa associazione tra urlare e avere il quando uno nasce da piccolo con un cordone al collo, perché si vede che faceva fatica a respirare, quindi per far respirare i bambini, mi pare un po' strano, molto strano, molto strano. Questo non credo, ecco. 800 24 00 24, siamo con Luigi Bisignani. Non abbiamo detto niente di Alfano con Bisignani, dei potenti Alfano, al tempo di Renzi. Alfano è potente, non lo è un comprimario, lo nomino soltanto che si sia seccato, perché il gruppetto appunto degli amici miei accanto a Renzi lo chiama familiarmente Checco Zalone. Non lo diverto. Ma come mai lo chiamano Checco Zalone? Solo per la somiglianza oppure perché è un comico? Credo per la somiglianza. Solo per la somiglianza, non hanno una... Renzi non ha una grande stima, o comunque il gruppo di Renzi non ha grande stima di Alfano. Comunque diciamo che Checco Zalone è un po' più popolare. È più popolare di Alfano, più popolare di Alfano. Anche tu non mi sembra che lo stimi tantissimo Alfano, o sbaglio? Insomma, io racconto il primo giorno che è andato al cospetto del Cavaliere, gli venne portato da Gianfranco Miccichè. Miccichè gli ha detto: ecco, vedi, di questo ti potrai fidare, perché io l'ho sperimentato alla regione Sicilia, quando era consigliere regionale. Ecco, insomma, la previsione non mi sembra proprio... Senti, a proposito, prima di svelare queste carte, carte che hai in mano, allora, 10 febbraio 2006, ma Berlusconi venderà anche Mediaset alla fine? Luigi? Beh, Berlusconi se può vende tutto, il problema è che chi gliela compra. Perché dici? Non... Beh, perché non Murdoch. È così facile. Ma Murdoch, insomma, lì c'era stata una grande occasione. Lui ha perso dei treni pazzeschi, ha preso politicamente il treno della bicamerale. Sì, vabbè, ha perso no, sì, però diciamo nella storia. Sì, ha perso il governo Maccanico e sul piano appunto delle aziende ha perso il grandissimo accordo con Murdoch che aveva fatto e aveva seguito, cioè, tu dici, Claudio, alla fine Claudio Costamagna. Eh sì, adesso tecnologicamente è anche un po' indietro Mediaset. E dunque? E dunque è sempre più difficile, per cui lui tutti i soldi che vuole non gli darà più nessuno. Dipende che cosa vuol fare. Cioè alla fine sarà costretto a svenderla, secondo te? Eh sì, e poi c'è questo, ci sono i figli che sono abbastanza reticenti nel fatto di vendere qualcosa. Eh beh, certo. Eh beh, sì. Ma sono capaci come il padre, secondo te? No. Beh no, quel tipo di genialità non c'è più. No, ma non ci può essere. Senti, ma dopo Berlusconi nel centrodestra chi c'è? Salvini, per esempio. Te, beh, sicuramente Salvini... non ti piace da Andreottiano quale sei, però. No, beh, il problema vero di Salvini è che quando tu, per uno che certamente è di centrodestra come me, lo sta a sentire, beh, condivide praticamente gran parte di quello che dice. Ma poi se mi dici voterai Salvini, beh, insomma, no. Ho qualche dubbio. Perché? Perché? E che ne so, perché poi alla fine... Perché cioè, ti fa impressione, La ruspa, sì, le cose... Sì, alla fine poi uno sta molto attento. Certo, poi se si va con questa Italicum... Cioè tu tra Renzi e Salvini, chi no, ma chi lì potresti? Non ci si arriva neanche. La tragedia è tra Renzi e Grillo. E allora io li credo che tutti noi sappiamo bene... Tu potresti Renzi. Renzi, ma potresti. Certamente. Ma però, senza neanche pensarci un attimo. Ho capito, ma tu potresti Renzi. Anche perché Grillo ti vuole morto. Anche contro Salvini potresti Renzi. Anche contro Salvini voteresti Renzi? Sì. Beh, lì certo comunque ci penserei molto di più. No, vabbè, ma adesso dai, lo puoi dire tranquillamente. Renzi ti piace, dai, su, ti piace. Beh, Renzi è un grande simpatia. Cioè, quello che ha fatto Renzi è vabbè, assolutamente strepito. Fatemi sapere queste carte, che sono? No, manda una telefonata, via, lascia la suspense. Poi no, abbiamo un attimo dai, le carte. No, le carte. Giuseppe le carte. Della provincia di Bari, abbiamo detto. E Luigi poi, della provincia di Bari. Dai, Luigi, e poi dai. Abbiamo le carte qui, le fotografo. Luigi, vai. Se possiamo mostrarle, ormai Luigi, incastrate. Dimmi, dai. Sì, subito, veloce. Sì, ma togli il viva voce, togli il viva voce. Sì, senti, volevo sapere prima di come si chiamava chi mi precedeva, Luigi Bisbignani, perché non riuscivo a capire niente. Bisignani, lo conosco. Io, siccome sentivo bisbigliare soltanto, il tono di voce era molto basso, no, ho detto in questo modo. Voce bassa, allora, niente, ma parole pesanti. Sussurra i potenti. Vai Luigi, dimmi. Ho capito. Allora, niente, mi sono scocciato di sentir parlare di gente che non sa niente della scuola e parlare della scuola. Lei, per esempio, il vostro gruppo, siete molto pericolosi perché fate disinformazione. Sì, noi siamo specialisti nella disinformazione, guardi. No, voi siete No, ma siamo veramente specialisti, siamo molto pericolosi, infatti, guardi, sì, questo è assodato. Ma sa qual è il problema? Che lei si crede nella casta dei potenti, però un poveraccio, un po' meno poveraccio di me, ma alla fine anche lei andrà a finire nel calderone degli sfruttati. Il degli problema sfruttati, della scuola. Degli sfruttati. Ma che c'entra adesso la scuola? Mi spieghi, che c'entra la scuola? Vi spiego. Allora, siccome voi state facendo una campagna, i professori sono fanno. Ma io non sto facendo nessuna campagna, non me ne sono disinteressato di questa roba qua della riforma della scuola. Dico semplicemente che gli scioperi della scuola mi fanno orrore. Lo sciopero mi fa orrore, anche quello della scuola. Per quale motivo le fa orrore? Lei ha paura che la gente possa parlare? Perché lo sciopero contro le assunzioni. Lo sciopero contro le assunzioni è contro un teorico merito, diciamo. Allora lei non ha capito niente. Lei è un altro di quel che non ha capito niente. C'è una legge europea che impone allo Stato di regolarizzare, non assumo un cazzo Renzi. Arrivederci, un insegnante, scusi. Arrivederci, Giovanni da Campobasso. Mi preoccupa Giovanni, se è un insegnante. Giovanni questo. Da Campobasso, vai Giovanni. Giovanni? Luca da Perugia, dai, Luca. Dimmi, scusami, dai. Ma, ovviamente non ti posso dare il mio nome. Non mi puoi dare quello il tuo vero. Nome, sì. Ma perché? Chi sei? Non ho capito. Faccio un lavoro che tu parli sempre di prostitute e io faccio il prostituto. Cioè, in che senso? Fai il gigolo. Va bene, va benissimo, ottimo. No, qual è il problema? Ognuno fa il suo mestiere, tu no, fai il gigolo. Nessuno. Ma solo guarda che mi hai detto come ti... Siamo anche noi che guadagniamo. Cioè, non ho capito, Luca non è il tuo vero nome? No. Vabbè, non è il tuo vero nome, pazienza, uno può chiamare... Per me l'amore è uno sport, ho visto che funziona bene... Ci sono molte clienti. Sì. che pagano molto molto bene. Vabbè, ma non è... E dal mio vecchio lavoro faccio questo lavoro. Scusa, ma quanto guadagni facendo gigolò? Siamo sui 6-700 la sera. 6-700 la sera? Quante volte? Non è che tu ogni sera puoi fare... Diciamo che siamo 4 volte a settimana, compresi qualche weekend lungo con alcune persone. Scusa, ma come fai a farcela? Quanti anni hai? Scusami. 2008 a settimana praticamente. Ce n'ho 54. Se tu a 50... Sport, tu sai che essendo uno sport... ti devi allenare. Tanto non ho capito, tu a 54 anni ci fai credere che 4 volte a settimana... No, non ti faccio credere, non voglio dire cazzate. È così, ma perché tu ci hai chiamato per dirci che fai gigolò? No, per dire che qualche volta invece chiamare qualche produttore chiama anche a noi. Ma chiama a voi, invece è la radio della Confindustria. No, ma tu stai dicendo, ma infatti è fondamentale. Tu stai dicendo invece di chiamare delle prostitute, chiama anche i gigolò. Benissimo, tu c'hai, ma io lo sapevo che c'erano i gigolò, non è che non lo sapessi. E allora? Niente. Così quando ci vuoi chiamare o mi vuoi chiamare, invitano a qualche... Vabbè, ok, qualche no, ma questo è importante. Lasci il numero e tu poi mi racconti una di queste sere come sei finito. Ce a fare già il numero? Sì, ce l'ho. Come ce l'ho, la sua startup? Ce l'ho, la nostra. È una piccola startup. Certo. Sì, però un po' particolare. Basta non dire che è una startup del cazzo. Però. Non farti da conto. No, tengo da conto il numero e soprattutto lo diffondo anche a qualche persona, magari intorno a Perugia, a qualche signora, può essere utile. Io adesso sto venendo a Roma. Vabbè, per un appuntamento. Vabbè, per un appuntamento, no, ci interessa. Percorso, cioè, Luca, tu stai andando a Roma per un appuntamento con una donna? Con due signore. Con due signore insieme? Sì, la madre e figlia. No, vabbè, ma dai, questa è stupida. Non è possibile. Adesso ci pigli per il culo, dai. Su, allora, chiamami dopo quando sei con loro. No, alle 8:30 c'ho un appuntamento sicuro, non posso chiamarti dopo. Vabbè, ma dai, su, ma non è possibile questa cosa, tu. Vabbè, Cruciani, poi ci conosciamo noi. Ma no, ma non ci conosciamo per niente, ma quando mai. Vabbè, ci siamo visti. Vabbè, sì, ci saremo visti da qualche parte, però... Che bell'ambiente, guarda, che frequenti, che bello. Ciao ambiente. Luca, ciao. Ciao. Luca da Perugia, quando ci siamo visti? Quali sono queste rivelazioni pazzesche? Vai, di carte Bisignani, queste carte in mano. Che cosa sono? Allora, Firenze, 10 febbraio 2006. Sì. Al presidente Andreotti, con la speranza che apprezzi questo piccolo libro che non vuole essere una rivisitazione della Costituzione, ma uno strumento per farla apprezzare di più e meglio ai giovani. Mm. Forse un compito troppo grande, ma ci provo. Firmato Matteo Renzi. E che cos'è, scusami, non ho capito. È un biglietto che accompagnava cosa? È un biglietto di Matteo Renzi che accompagnava il suo libro Tra De Gasperi e gli U2, mandato a Andreotti. Che il 30 aprile del 2006 risponde cortesemente dicendo che è buono questo lavoro che sta facendo Renzi per cambiare la Costituzione. Mm. 2006 nel, però. Nel 2006, cioè nel 2006 Renzi scriveva ad Andreotti con grande deferenza ed aveva chiaro il percorso che doveva fare. Mm. Per cui lui, come noi raccontiamo con Madonna nel nostro libro, era proprio deciso a rottamare tutto Già nel 2006. Sì, e l'ha fatto con grandissima perseveranza, lasciando attonito. Ma ti piacerebbe di diventare consulente di Renzi? No, assolutamente. Chi ha sussurrato ad Andreotti non può più sussurrare a nessuno. Perché? Ma poi l'altro biglietto basta. Qual è? No, il biglietto è questo. Ah, Il carteggio tra di loro. Grazie a Luigi Bisignani, a presto. Ciao. Grazie. Ciao Luigi, ciao. Pubblicità. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. La Zanzara. Invece che le mignotte vanno lasciate in strada, sono una cosa bella, ma le mignotte lungo un viale alberato, belle, perché poi sono tutte belle. Il viaggio di Ballarò nei bordelli tedeschi. Ma vogliamo rimandare in onda quella cosa meravigliosa di quell'esperimento che stanno facendo in Germania, forse da un sacco di tempo già, Parenzo, su All You Can Fuck. Cioè tu entri, paghi e puoi scopare quanto ti pare. Ma ti rendi conto della genialità? Beh. Cioè i tedeschi sono considerati magari c'è del talento, eh? C'è del talento. All you can fuck. No, ma ti sento molto, vorrei dire eccitato, ma no, in realtà eccitato, ma io non sapevo l'esistenza. Apprezzi questo sistema economico? No, ma assolutamente non solo apprezzo questo sistema e questo tipo di invenzione, ma ero anche indietro, ammetto di essere indietro, perché non lo conoscevo. Cioè, tu ti rendi conto, io conoscevo All You Can Eat, altre cose strane dei bordelli in Germania, ma All You Can Fuck, ma è una genialità assoluta. Cioè, tu paghi, entri e puoi fare quello che ti pare. Secondo me lo sai fino perché lo fanno. Fino al consumo, diciamo. Sì, ma lo sai perché lo fanno? Perché tanto si rendono conto che dopo un po' non ne puoi più. Basta. No, cioè, non ne puoi poco. Quante ne vuoi fa? Cioè, quante tu ne vuoi fa? Sottovaluti la fame. Semproni, in questo caso la Semproni fame. Dice che al massimo ne puoi fa tre. Adesso poi lo facciamo sentire. Se, beh, ma Semproni, come fai a non conoscere? Semproni, come vero, fai sì, a non conoscere Semproni? No, era un attimo, come stavo pensando a Civati. Stavo pensando a Civati. Ma chi ce ne frega di Civati che lascia il PD? Semproni, all you can fuck. Andiamo a organizzare un addio al celibato in un posto che applica la formula All You Can Fuck, tutto quello che puoi scopare. Incluso scopare tutto costa 80 euro a persona. 80 euro a persona. Sesso orale senza preservativo è incluso, leccare è incluso e la normale scopata con preservativo è inclusa. È una tariffa unica da noi. Vi piace un mondo così? Che una bestia di quelle, quelle ti si socchiano come l'umidolo, hai presente l'umidolo qua a Re? La femmina che fa cucì, ve l'ho detto 100 volte, la donna sessualmente è 100 volte più forte dell'uomo. L'uomo può fare lo zimbel, l'uion se fa una tripletta, lunedì, martedì altra tripletta, mercoledì vai ti concedo un'altra tripletta. Giovedì stacca le flemme all'ospedale, capite? E venerdì, venerdì autogol. No, cazzi, venerdì, che volete fare? E venerdì autogol. Cioè, a parte che è anche generoso Semproni, perché dice 3-3-3, ma tu l'hai mai fatto 3-3-3? Professor Semproni. No, dico lunedì 3, martedì 3, terzo giorno altre 3. E poi giovedì all'ospedale. Ma scusa, ma è mai possibile? Tu hai mai fatto 3 triplette consecutive? Diciamo la verità. Lunedì 3, martedì 3. No, ma un 3 non lascia perdere i giorni. Cioè, hai fatto 3 triplette in 3 giorni. Ma l'avrà fatto sicuro in gioventù, anche il in gioventù. Ma quanti anni c'hai? 50? Cioè, ma no, meno 39, di 49. Ho detto, ma sicuramente sarà capitato. Adesso non so di chi. 3 triplette. Puoi fermare le rotative del nuovo ragazzi, giornale diretto triplette. Da Fontana del Corriere della Sera per mettere questo virgolettato, no, 3-3-3. Se vuoi, no, però... allora, Cruciani, 2 punti, io 3-3-3 non l'ho mai fatto. 3-3-3 non l'ho mai fatto. Ma ragazzi, ma una rottura di coglioni pazzesca, tra l'altro 3-3-3. Cioè, ma che è? Ma che devi tu sei tutto... strano forte, sai. Ma non l'ho mai fatto, sei ma... una persona strana. No, dai, sei strano sulla... forte sei. Siamo ad alti livelli qua. BMW Freeride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta La Zanzara. Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui. È un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto, Marco è dentro me. Ragazzi, è veramente tutto finito. Marco Pannella fa iscrivere Gigi D'Alessio al Partito Radicale. Bellissimo, bellissimo. Batte forte dentro me. Io ho avuto il grande onore per la prima volta nella mia vita di iscrivermi ad un partito e l'ho fatto al tuo partito. E questo infatti è un esempio. Esatto. E infatti qui, quando c'è un esempio di questo genere, sai che fanno? Cerco di tagliare pure a te. Ma non fa niente. Perché hanno paura non di te o di me, hanno paura del popolo. Se siamo assieme, col cazzo che facevi pure tu, bisogna andare a vedere a qualche ritaglio al telegiornale della mattina alle 2 di mattina. Ma Scusi Pannella, ma come le è venuto in mente di scrivere Gigi D'Alessio a Partito Radicale? Abbiamo fatto la libertà e il diritto con i Falun Gong. D'Alessio Gigi, non Luigi Gigi Einaudi con Don Benedetto Croce. Sì. Da Don Benedetto Croce, passando per Pannunzio, quello del mondo, abbiamo fatto D'Alessio libero. D'Alessio ora dice Falun Gong, Vietnam libero, le carceri, San Vittore, abolire il carcere. Nei concerti non so neanche che cazzo canta, ma noi diciamo D'Alessio ora candidato capolista, ma non vuole essere radicali, assieme a Rina, il diritto di Rina essere deputato lui, no, che Rina ha imputato il Parlamento, noi diciamo noi radicali dalla parte di Caino, nessuno tocchi Caino, nessuno tocchi D'Alessio, ma non è... democrazia e diritto. No a Cruciani, sia a Caino, sia ad Alessio, anche Rina dal seggio di San Vittore. Il diritto di Rina a essere come nel paese in cui la Corte incostituzionale ha massacrato Mattarella, lui non Piersanti che era stato prima radicale. Sfumiamo su. Liberale. Giovanni Campobasso, vai. Finalmente, Ok, non rispondevi prima, che te devo dire, dai. Ma è possibile che tu non sai che in Germania ci sono i bordelli? Ma lo so, non sapevo che facessero all you can fuck, abbi pazienza, amico mio. Sapevo che ci fosse questa grande offerta all you can fuck, che è ottima come offerta, ottima lo, direi. Lo fanno da allora sempre. Io faccio un appello agli amici nostri che frequentano bordelli in Germania, in Austria, in Svizzera, sono tanti. Scusa, tu se vai in Spagna c'è una grande sala, entri e paghi la consumazione, poi quale donna vuoi ti scegli, c'è perlomeno ogni donna di ogni nazione. Allora, amico mio, però qui è una cosa diversa. Cioè lì di solito paghi la singola donna. In questo caso è una formula omnicomprensiva, come si dice, no? Cioè una formula appunto all you can fuck. Come quando vai in un ristorante, sì, spesso ristoranti cinesi o giapponesi, io ogni tanto ci sono qua a Milano, all you can eat. Mai andato io lì. Sì, io un paio di volte. Ma tu perché hai il braccio corto per quello? No, ma che c'entra? Sono capitato per caso, spendo un sacco di soldi per mangiare, non è questo il punto. Ah, sì? Sì, all you can eat, da qualche parte vai e mangi quello che ti pare a pranzo soprattutto, no? Bisogna stare attento nei ristoranti cinesi, Sì, vabbè, adesso questo è un altro discorso, però abbi pazienza. Stiamo parlando di all you can fuck, cioè tu puoi entrare e scopare quanto ti pare pure tutta la notte, capito? Gratis. Gratis. Questo solo in Italia non lo fanno. E vabbè, in Italia non fanno nulla, nemmeno una volta però, cioè nemmeno... Perché c'è il Vaticano. Vabbè, ma che vuoi da noi? Che mi dovevi dire? Non ho capito. Niente, ti volevo dire che tu non sapevi, io lo so perché... Vabbè, lo sai, perché tu sapevi che c'era You Can Fuck? E certo che non sapevo. Vabbè, Daniele da Brescia, vai, Daniele. Pronto? Daniele, dimmi. Ciao, ascolta, volevo dirti una cosa importante sull'immigrazione, perché fino ad ora si sono sentite soltanto grosse sparate, secondo me. La mia idea sarebbe quella di accoglierli, va bene, tutto quello che vogliamo, gli facciamo le spese che lo Stato sostiene, cioè quei famosi 35 euro al giorno, verranno riaddebitati all'extracomunitario quando esso chiederà la cittadinanza italiana. Sì, può essere anche... Ma che succede a Padova sui migranti? Per scusami, perché il sindaco credo sia sempre Bitonci, perché mi pare che sia sempre... No, chiedo, non lo so. Ma è sempre Bitonci. Certo. Il signor Bitonci ha fatto una cosa vergognosa in questi giorni. Vuole fare una delibera in cui i padovani che ospiterà, per vietare i padovani di ospitare in casa i profughi. Allora, c'è nessun migrante nelle case private, questo. 560 profughi in arrivo nel Veneto, profughi, non clandestini, profughi. Vabbè, è diverso. Profughi, presunti profughi, No, profughi, presunti certificati profughi. Se vuoi saperlo, perché non è che arrivano clandestinamente, in quanto profughi. Bitonci, l'ultima bitonciata, vuole fare un'ordinanza che per motivi di salute pubblica vieti l'ospitalità dei migranti. Bitonci. Ora io voglio organizzare nei prossimi giorni veramente una marcia su Padova, perché non è più possibile. No, ma che c'è? Non è possibile. Cioè, il privato non può ospitare per ragioni di salute pubblica. Ma ti rendi conto della gravità razzista di questa roba? No, perché? Salute pubblica. Ognuno difende la propria città e i propri interessi come vuole. Cosa vuol dire? Difende cosa? Lui difende i padovani, secondo... I padovani dall'invasione dei migranti. Ma qua. Ma perché? Qual è il problema? Non ho capito. Ma uno può decidere che nella propria città non entrano persone oppure no? Fa un'ordinanza per la salute pubblica, 560 profughi, non immigrati, controllati quindi anche da un punto ma di vista... Ma che ne sai che sono controllati? Che sono ne sai? Perché hanno avuto visite mediche nei ma campi dove ma sono stati di prima accoglienza, perché c'è la Croce Rossa Internazionale. Fermi tutti, Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Bisogna sparare un rom in mezzo ai denti. Denti d'oro. Servi di Roma fuori. Gli denti d'oro. Fatti con il Rolex rubato a casa. Non hanno una dentiera, ma un intero longin d'oro. Rubano i Rolex. Non che poi usano anche i blebop quando devastano la città. Fai vedere le tue braccia possenti a chi ti vuole fermare. Allora, questa volta protagonista Radio Padania è direttamente Salvini, che quando va a Radio Padania, come sentite, usa un linguaggio molto molto particolare. E Nabucco salirà con al cielo e ti cullerà. Figlia dei Quello del 67enne in carrozzina, uno che arriva a 67 anni a spaccare tutto in carrozzina. Vergognati, vergognati pensando agli invalidi che con 280 euro invece di andare a sfasciare le cose si preoccupano di aiutare il prossimo. Quel tizio lì si dovrebbe vergognare, vergognare come un verme. Questa ipocrisia radical chic, quella, possiamo fare dei nomi e cognomi? Vai. Quella dei Fabio Fazio, quella dei Bisio, quella dei Vecchioni, quella dei Fedez, quella dei J-Ax, quella del Dixan, quella del Dash, quella dello studente, cioè bello bordello. Il potere falso che ci spreme sfonda il muro di onnipotenza. Altro che Italicum, quei cazzoni che stanno in Parlamento a occuparsi della legge elettorale dell'Italicum mentre intanto i capannoni chiudono e finiscono nelle mani delle banche. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Però ti cadono le palle perché poi leggi i giornali adesso e c'è la Boschi che sorride per l'Italicum. Guardavano. Prima della borsa, per forza devo sentire Fabrizio da Roma. Fabrizio da Roma, vai. Buonasera Giuseppe, buonasera David. Dimmi. Buonasera. Allora, io stavo a sentire prima che tu dicevi ma non ce la fai a fare tre volte l'amore per tre giorni da Sivila per dire. Scusa, io francamente ho capito, ma a me non mi è mai successo di fare la tripletta alla Semproni, 3-3-3. 3-3-3. No, però mica la tripletta che iniziamo alle 6, alle no, la tripletta, la tripletta. La tripletta significa 3 in un giorno, 3 il giorno dopo, 3 il giorno ancora dopo. Ma io facevo l'amore, adesso sono single, ma io facevo l'amore pure 4. Adesso single forse single di solito si fa di più. Comunque è il paese reale, ha ragione Fabrizio, ma è così. No, veramente, io quando abitavo con la mia donna, che mi piaceva da morire, era anche una bella figa, se può dire a quest'ora. Sì, si può dire. Ma io se stavo a casa ero tutto il giorno libero, mi svegliavo la mattina alle 8, già arrapato, eccitato. Vabbè, arrapato, e sì. Facevo l'amore, ok, facevamo colazione, stavamo a letto. Ma un che paio età, d'ore, scusa, che età? Ma vabbè, io parlo di 7 anni fa, io adesso ho 45 anni. 7 anni fa, a 38 diciamo. A 38. Esatto, io la scorsa settimana l'ho fatto con una mia, diciamo, tromba amica, si chiamano così. Sì, adesso. Si chiamano così, sì, bravo. E in una, no, in una sera dopo cena, non ero stanco, ovviamente. Avevo lavorato. Ho fatto 4 volte. 4 certo, volte. Abbiamo cenato verso le 7 presto, pesce leggero. Sì. Io verso l'una mi sono addormentato 4 volte. Oh, ero talmente eccitato, che ne so. 4 volte, ma chi sei? Io 4 volte. Vabbè, ma che sei? Una bestia sei. Questo non capita sempre. Però quando stavo cara, ma io 4 volte mai, ma 4 volte consecutive mai, in una giornata, in ma una mai giornata, magari, ma assolutamente mattina, ma anche mai, ma a parte non c'ho mai avanti, lo rifai, ma non c'ho mai avuto tutto sto ma io già dopo una o due volte già mi sono rotto i coglioni, ma che sei matto sei. Fermi tutti, pubblicità. No vabbè, ho capito mica no, non siamo tutti uguali, per carità. E allora che te sta data dell'impotente ci mancherebbe, però se una ti piace talmente tanto, se stai con una super figa, cioè che ce l'ho, che ne so, stiamo tutto il giorno a casa, la mattina lo faccio colazione, poi pranziamo un paio, lo rifaccio, due ore dormo. Io penso ad altro, ma stai... fermi tutti, pubblicità. La patata tira più della Confindustria, te lo posso assicurare. Tutto evolve. La sfida sta nel cambiare senza dimenticare la propria identità, la propria storia. ACG con Team System cresce, si rinnova, evolve. ACG Enterprise è la nuova soluzione gestionale. Oltre 20 anni di esperienza con tecnologia IBM Power Systems in una soluzione completamente rinnovata grazie alla piattaforma web Poliedro di Team System. Evoluzione, rinnovamento, performance. Presentazione ufficiale il 7 maggio presso l'IBM Client Center Milano. Scopri l'evento su acginfo.it. ACG Enterprise. La storia continua. Migliorare efficienza e produttività? Le risposte a SPS Italia, l'appuntamento più atteso dell'anno per l'automazione industriale. Dal 12 al 14 maggio, 600 aziende vi aspettano a Parma in fiera per un grande incontro tecnologico. Non perdere questo appuntamento. A SPS Italia tutte le soluzioni applicative e tante occasioni di formazione con le tavole rotonde in programma nelle tre giornate fieristiche. Dal 12 al 14 maggio, ingresso diretto registrandosi sul sito www.spsitalia.it. Dottore, il limite di velocità è di 90, rallenti. Ma che frenata brusca! Alzi il finestrino, mi arriva l'aria. E su, acceleri, non vede che ti superano tutti? Dottore, perché fai il pieno qui? Da oggi decido io dove fare benzina. Arriva Expendia Smart Drive, l'unica carta carburante che ti permette di fare rifornimento dove vuoi. Massima libertà, massimo controllo. Da Edenred, scopri tutti i vantaggi fiscali su notafacile.com. Sì, non si sta dimenticando qualcosa? La Zanzara. Vabbè, no, non siamo tutti uguali, per carità. Io mica che te sto a dare l'impotente, ci mancherebbe, però se una ti piace talmente tanto, se stai con una super figa, cioè che ce l'ho, che ne so, stiamo tutto il giorno a casa, la mattina lo faccio. Allora io però, Fabrizio, non ho capito una cosa, mi chiedono qui volevo precisare una cosa. No, mi chiedono una cosa, quanto durano però queste qua? Quanto durano? Allora, ecco, perché sennò altrimenti... Volevo precisare una cosa. Dimmi. La scorsa settimana forse era talmente tanto che non lo facevo, ero talmente tanto eccitato che la prima è durata pochissimo, vabbè, e non soffro di, non credo di soffrirne. Diciamo che in la prima ora ne ho fatte due perché ero proprio super eccitato. Sì. Poi siamo stati quelle 3-4 orette a letto, sai. Sì, ma quanto durano? Ma mediamente una ventina di minuti, diciamo, mezz'ora, dipende. Beh, insomma, la prima è veloce, la seconda dura di più, la terza dura più o meno come la seconda, la quarta comincia ad essere un po' più fiacca, certo, ma mica che ne faccio quattro tutte le volte, non so un fenomeno, cioè non sono un supereroe. No, no, ma ho capito. Vabbè, Antonio da Bari, ciao Fabrizio, Antonio, ciao, vai. Ciao ragazzi. Buonasera, amori miei. Tesoro. Da quanto tempo? Dimmi, Antonio. Sei comunista, Beppe? C'è il comunista. Beh, c'è. Eccomi, caro, se parla di parlare. Me. Allora, sì, dimmi. Viene pagato, neanche parlo, sto dormendo. Allora, vai. E niente, volevo dire una cosa su questi bordelli in Germania. Lo voglio consigliare a Parenzo. Parenzo ti farebbe bene, è un bel posto. Sì. Ma che cosa? All you can fuck? All you can fuck? Sì, lo you can fuck. Ma ne ho bisogno. Le devono fare in Italia. Ma sei andato tu, Antonio? Ho bisogno. No? Sì, allora praticamente. Ragazzi, ma solo io non conoscevo All you can fuck. Cioè, è una cosa pazzesca. Ma neanche io, Peppe, lo conoscevo. Allora, praticamente mi stavo andando a ritirare. Sì. Mi trova una ragazza e dice andiamo in un pub. E pensavo che questa voleva andare a fare una birretta. Vabbè, ma allora... appena entrato mi sono reso conto di che ambiente era. Un bel ambiente. E praticamente con 80 euro. Ma che cosa puoi passare la serata a fare ciò che vuoi. Quello che ti pare. E lo consiglio a Parenzo. Cioè puoi passare dall'involtino primavera. Puoi passare dall'involtino primavera al riso cantonese. Sì, fanno e poi, ricominciare. Le seghe con i piedi. Le seghe con i piedi. Massimo. Ma c'è Squinzi che ci sta ascoltando alle 20:39. Le seghe con i piedi. Le seghe con i piedi, amico mio. A quello manco le cinesi, le massaggiatrici qui le fanno le seghe con i piedi. È vero. Vabbè, ciao, era una che faceva queste cose. Ciao, bello, ciao. Allora, leggo su Facebook delle cose tremende di un mio amico. tremende. Annunci di fuga, eccetera, eccetera. Ciao Marco, Marco Baldini è con noi. Ciao Peppe, ciao Davide. Ma come... Guarda, l'unico che è riuscito a farmi ridere in questi ultimi giorni è quello delle seghe con i piedi. Ah, questo intellettuale che ha chiamato ora. Sì. Mamma mia, Parenzo, sì. Parenzo è sempre così snob nei confronti di questi ascoltatori. No, che è veramente imbarazzante. Mi fa schifo l'immagine di questo ascoltatore che va in in questo posto e fa le cose con i piedi. Mi può far schifo questa idea. Ma qui, che schifo, è meravigliosa questa immagine. Qual è la radio in Italia in cui uno chiama? Che parla di seghe con i piedi a quest'ora. Dai, su, della Confindustria per giunta. Ma non è che ti ho fatto venire qualche voglia di ricominciare a fare qualcosa. No? Momento, no, di questo no. Credimi, no, è un gamberetto. Visto come un gamberetto. Lo sai, no, come si dice? Il non vuole pensieri. E dunque in questo momento non riesci più, manca scopà. È dura, molto dura. Senti, no, io mi piace che ti ho fatto ridere, ma sì. Come stai? Per usare un sottile eufemismo, una merda, Peppe. Male, molto male. Ma economicamente? Ma economicamente non se ne parla neanche, cioè economicamente sono sotto lo zero. Ma cioè riesci a campare quotidianamente? No, zero, assolutamente. Cioè come fai quotidianamente a campare? Si sopravvive, Peppe, si impara. Una cosa bella che si impara in questa situazione è come l'uomo in effetti riesce a vivere con poco, se si adatta, riesce a vivere con poco. Cioè come vivi? Fammi un esempio di una giornata, tipo come riesci a campare, a mangiare, vestirti, eccetera, eccetera. È un problema, è una bella domanda. Me lo chiedo ogni mattina, me lo chiedo. Però bene o male, Beppe, se si impara a risparmiare su tante cose, se si impara a essere un attimino più oculati, io mi sono accorto di quanto spreco facciamo ogni giorno quando facciamo una vita normale e quanto invece possiamo risparmiare se uno è costretto a risparmiare. Tu sei costretto perché sei in totale indigenza, si può dire? Sì, adesso sì si può dire senza problemi. Cioè ci sono solamente delle persone che ti danno dei soldi, che ti aiutano? No, cerco di guadagnarmi ogni tanto, cerco di chiedere sempre il meno possibile perché sai... Ormai come personaggio pubblico penso di essermi suicidato, come essere umano invece insomma un certo grado di dignità tendo a mantenerlo e allora tendo a chiedere sempre meno possibile e a fare più cose possibili. Ma mangiare ce la fai? Mangiare sì? Cioè nel senso che ti invita il bar a fare l'inaugurazione, non prendi i soldi che prendevi 10 anni fa, prendi 20 volte meno, ma ti adatti, ci vai. Cioè vai a fare l'inaugurazione del bar? Del bar, del negozio, quando capita, certo. E in tutto questo sai qual è la schizofrenia? Quale? Che le persone che ti attendono lì si aspettano da te l'immagine della persona comunque famosa, vincente, del mondo dello spettacolo, e tu dunque devi dare l'idea di essere la persona di sempre con i problemi che hai. Senti, ma questi problemi che hanno si sono tu a un certo punto lavoravi con Fiorello alla radio, te ne sei andato. Da quel momento non lavori più, ogni tanto scrivi su Facebook e dai quasi l'idea, non dico di volerla far finita perché tu non la vuoi far finita. Ma guarda, non penso che tu hai pensato ci ho riflettuto a lungo, perché quando tu sei in queste condizioni ci rifletti. Cioè ci rifletti su che cosa, scusami? No, ci rifletti anche, cioè ti passa per la mente perché insomma è inevitabile. Cioè ti è passato per la mente di ammazzarti? Sì, più di una volta, ma non l'ho fatto per un semplice... Io non sono ipocrita che dice no, sai, uno non si ammazza perché è un vigliacco, no, perché ti manca il coraggio, cioè chi non si ammazza, Beppe, al 99% dei casi è perché ti manca il coraggio. E a te ti è mancato? Sì, più di una volta. Ma non ci sei andato vicino? Proprio. Non ci sei andato vicino? L'ho rasentato un paio di volte. Ma in che modo? Guarda, ti racconto una cosa che nessuno sa, ed è vera perché chi mi vuol bene la sa. Circa un anno fa ero proprio partito con la brocca di volerla fare finita. Questo è una cosa che mi ha fatto ridere. C'è chi la interpreterà come un segno del destino, chi la interpreta come una minchiata alla Baldini, però è vera, te lo posso garantire, anche perché non vi racconterei una cazzata. La Zanzara per me è una specie di cattedrale, la Zanzara, dove uno un po' si confessa. Allora decido di farla finita, trovo un posto molto lontano da Roma, isolato, in modo nella mia testa mi dovevano trovare dopo tanto tempo, mi dovevano trovare non subito. E avevo preso il tubo perché avevo letto nei vari manuali che se vai su internet ci sono qual è il sistema meno cruento per farlo. Ed è appunto, sembrava che fosse quello del tubo collegato allo scappamento della macchina. Mentre sono lì che sto praticamente chiudendo il finestrino con il nastro isolante, sì, ero molto distante dai centri abitati, mi sono sentito arrivare un cartone in faccia da dietro, ho ancora le foto della faccia segnata. E chi era? Era un barbone che mi aveva visto fare il gesto insano e mi voleva rapinare, che è stato anche un pirla, perché se avessi aspettato un quarto d'ora probabilmente l'avrebbe rapinato un morto. Ti ha salvato il barbone? Mi ha salvato il barbone, ho preso due cartoni in faccia, mi sono alzato, ne ho tirati due io, mi dispiace pure, perché ti vorrei pure chiedere scusa perché mi ha salvato la faccia. Poi ho avuto la fortuna, lui è inciampato e è caduto in un fosso e sono partito con il tubo attaccato della macchina via. E lì però mi sono reso conto che se probabilmente non ci fosse stato questo questo inconveniente, forse sarei andato a diritto. Senti, cioè, ma adesso tu, adesso sì, tu in, quanti, perché poi alla fine si va sempre lì, sì, no? Su quanti debiti hai in tutto? Ma no, ma non sono tanti, Beppe, cioè, non, il mio problema, vedi, quello che ho scritto su Facebook non è tanto una richiesta d'aiuto, perché ormai è da mo' che ho smesso di chiedere aiuto alla gente. È più che altro una riflessione su come siamo diventati, e qui si potrebbe andare avanti per sei trasmissioni, per come è diventata l'umanità, in modo particolare la popolazione italiana, ma non tanto chi non ti dà una mano, chi, quelli che spargono voci che ti tagliano le ali, cioè quelli che ti creano un alone incontro e intorno di non credibilità. Sì, sì. E questo è vero, ma con Fiorello come sei rimasto, scusa? No, con Fiore come sei rimasto? Ma con Fiore come sono rimasto? Che ti devo dire, Davide? Tanti anni fa, cioè tanti anni fa, tanti mesi fa, niente. Ho manifestato una, un disagio, una grossa difficoltà. Purtroppo una persona come me che ha detto, ha gridato tante volte al lupo, quando il lupo arriva davvero non è creduto. Probabilmente non mi ha creduto neanche lui. Insomma, è abbastanza umana. Ma ti sei sentito tradito? Reazione. Ma no, Fiore è fatto così, si spaventa, cioè nel senso... Si spaventa di cosa? Si spaventa, perché del giustamente, disagio, cioè lì potevano vedere le persone... Guarda, ti devo dire la verità, ma te l'ho detto anche, lascia perdere, se vengono qua li affronteremo, nel senso non è un problema. Però anche lui, come tutti gli altri, non mi ha creduto, cioè, ma è abbastanza umano, c'è cioè un problema diffuso. Ma ti ha mai dato dei soldi lui? Ti ha mai dato dei soldi o no? Soldi in mano lui no, però mi ha dato da lavorare tanto, insomma... E in questo caso tu gliel'hai chiesti? In queste... No, no, in questo caso no. In questo ma caso ti, ti senti un po' tradito da lui o no? No, no, ma guarda, non mi sento tradito da Ferrero, mi sento tradito dallo showbiz, nel senso, da sto mondo qua. Senti, ma io voglio capire quanti in tutto, tu hai detto non sono tanti, ma possiamo dire quanti ne hai di debiti in tutto? Ma sì, non c'ho problemi, guarda. Devo distinguere fra due tipologie di debiti, e in totale saranno poco più di mezzo milione di euro. Che per uno che come me ha pagato 5 milioni di euro in 11 anni, insomma, non è una grande cifra. Cioè 5 milioni erano i debiti che avevi prima, insomma, dici? Sì, e li ho pagati, quasi. Un tempo mezzo milione lo guadagnavo in meno di un anno. Beh, nel 93 tu mi hai detto una volta, eri uno degli uomini... Sì, più ricchi di Milano. Guadagnavi 2 miliardi l'anno? Quanto guadagnavi? Sì, 2 miliardi l'anno all'incirca, fra gli sponsor, le serate, la radio. Cioè, tu pensa, allora, quest'uomo qui che ci sta parlando, che è un mio amico, cui voglio bene e tutto, sì, lo so, certo. Da tantissimi anni, è passato ad essere uno degli uomini più ricchi di Milano, pensa del cervello umano, alla totale indigenza. Però dillo, ecco, è colpa mia. Perché io lo so, certo, che tu lo dici. È colpa mia, assolutamente. Ma cioè, di chi è la colpa, Beppe? Ma guarda, io penso nella vita. Ma tu i vestiti, per esempio, addosso, che cos'hai? Adesso c'è una... No, vabbè, adesso non voglio andare sul violino. No, no, no, ma che c'è? E sul libro cuore. Però diciamo che tendo a usarli il più possibile per non andare in lavanderia. Però vabbè, ma questi sono espedienti che non interessano a chi ci ascolta. Cioè, ma tu 30 euro, come dire, con quanti soldi campi al giorno, cioè quotidianamente? Ma dipende, delle volte 2 euro, 3 euro, 5, delle volte 20 quando li ho, che ne so, cioè dipende dalla giornata, da quello che ho fatto, da se ho lavorato. Ma avrai qualche amico che ti invita a cena, a casa? Che sì, questo è uno dei lati positivi dell'essere famoso, spesso ti invitano a cena. Dunque, senti, stai dicendo una cosa però sui due tipi di debiti, una da parte di... una da parte di persone che non hanno problemi di restituzioni perché sono persone abbienti e che... E non te li chiedono? Dare, e non te li chiedono. No, nel senso, stanno la situazione in cui sono... Sperano ancora e confidano nella mia capacità professionale, dunque non mi danno sì, fatica, sì. Non me. Ci sono invece una piccolissima frangia di persone disperate sì. E sono loro le vittime, attenzione, non io, sono loro le vittime, che continuano a assillarmi in una maniera estremamente inumana. Cioè ricevo una roba tipo 200 telefonate al giorno di gente che... Ma con questi che debiti hai con ciascuno di questi qua? 10.000, 2.000, 5.000? In totale? Totale? Ma non arriverò a 30.000 euro. E che non, che non hai? Ma, no, ma io non ho neanche 30 euro stasera, cioè per dirti, non è quello, Beppe, poi i tempi sono... Ma questi qua ti minacciano? Ti minacciano? Ma no, ma vedi, allora, il mafioso non ti minaccia mai, il professionista non ti minaccia mai, perché sa che se ti dà tempo, tu lavorando glieli puoi ridare. Sì. La persona disperata, che non è un mafioso, ma è una persona che lavora e magari deve mantenere dei figli... o ha un mutuo da pagare, o per te va nei guai, giustamente delle volte esce fuori di sé, ma non perché... Ma tu hai paura di qualcuno? Hai paura di qualcuno? Io ho paura che qualcuno... Io non ho paura di loro, io ho paura per loro. Perché per loro? Ah, per loro, perché senza questi che soldi... Che qualcuno faccia un gesto insano, capito? Che qualcuno si lanci dalla finestra... E tu che invece qualcuno... che idea hai? Ho sentito che vuoi andare via, che succede? Cioè, in questo momento... Beppe, guarda, io ti dico la verità... attualmente c'è una persona a cui tengo più di ogni altro al mondo, che è la mia ex moglie. Sì. Se qualcuno mi dicesse: sistemo la tua ex moglie, che anche lei soffre di problemi che gli ho creato io, o meglio, lì è un po' complicato. Vabbè, inutile spiegarlo, ma è inutile, esatto. Ha problemi economici anche lei, sì. Sì, a causa mia. Sì. No, no, lei lavora, è una... Però comunque ha dei debiti anche lei. Paga delle cose per causa mia. Se io trovassi qualcuno, sistema lei, io me ne potrei andare tranquillamente domani. Cioè, te ne vorresti andare via. Dove? Dall'Italia. Via dall'Italia, sì. Ma guarda, ti dirò una cosa: sai cosa ti si sviluppa quando tu vivi in questa situazione? È strano l'animo umano, eh? Anche se devo dirti che comunque io in realtà l'ho sempre fatto. Però quando lo vivi sulla tua persona, tu proietti i tuoi problemi sugli altri, nel senso che tendi ad aiutare gli altri. Cioè, mi piacerebbe fare una cosa per cui posso aiutare gli altri. Dunque tu vuoi aiutare la tua ex moglie a risolvere questi problemi e poi andare via dall'Italia? Sì. Cioè, se domani ci fosse qualcuno che ti paga un biglietto per andare in un paese anche lontanissimo, dove magari si sta bene col sole, i Caraibi, che no, i Caraibi no, perché... No, vabbè, dai, vabbè, in un paese, in un paese al sole, però molto lontano, te ne andresti? Sì. Per non tornare più? Non tornare assolutamente più. Ma hai paura per te stesso? Non hai paura? Che... No, ma, guarda, ma gli ultimi debiti sono tutti debiti di gioco, scusa Marco. No, eccola, bravo. Ci sono due cose che mi fanno impazzire. La prima è quando mi dicono ancora, non è ancora, non ne sono mai uscito prima. La seconda è quando mi dicono cioè che giochi sempre, giocare. Che giochi sempre. Ma sono il 2009, signori. Cioè, ah, ho capito. Ho reiterato. E che debiti sono? Che debiti sono allora? Sono debiti, ma è un po' lunga, ma quando ero vicino a finire di pagare i 5 milioni, mi sono fermato col lavoro, l'emittente dove lavoravo non aveva più i mezzi per mandare avanti la sede di Roma, e sono trovato a continuare comunque a dare dei soldi a delle famiglie che lavoravano per me, mi sono indebitato per poter continuare a sostenere delle persone che lavoravano per me e per sostenere me, insomma. Va bene ragazzi, qui non si cerca, io lascio Marco Baldini, nessuno cerca compatimento, ecco, però bravi, no, togliete intorno a una persona un alone di negatività. Vabbè, è complesso da spiegare. Sai una cosa, uno impara a dire la verità. Purtroppo ci ho messo tanto, ma impara a dire la verità. Dunque non pensiate che io racconti sempre fantoni, tutto lì. Va bene, ciao Marco, a presto. Ciao ragazzi, ci sentiamo domani 18:30. Viva Marco Baldini, viva la radio, è uno dei pezzi, dei mostri sacri della radio comunque, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24, la passione si sente.